giornata, oggi è la giornata da infarto, come le chiamo io, molto ansioso, mangiato un po' così così, non mi piace molto oggi, vabbè, poi per fortuna sono arrivato a casa, mi sono tranquillizzato. Chi è alla radio però? Non ho riconosciuto la voce. Marco lì, tanto non mi riconosci chi sono io. Ah, vabbè Giuseppe, ma prima se vi facciamo la voce, oh, attenzione. Giuseppe, sì, ma sei da Pomponio? Come sta Pomponio? Come sta? È sempre con la terza gamba a retta, Oh, quindi cammina con tre gambe? Adesso c'è un freddo, cazzo, Marco lì. Cazzo, si sta calando anche lui, cazzo, vedi? Cazzo, mi si mette il pigiama, cazzo, di no, che se no, cazzo, muoio nel freddo. Pensa che io sotto il pantalone c'ho il pigiama, una specie di... una specie di pigiama, anche per uscire mi l'ho messo perché c'è freddo, e se io esco a piedi, capita, mi sono coperto bene. Ebbene, non si è scaldato oggi con la... Non si è scaldato con l'alcol oggi? No, diciamo, siamo andati, ma per me è negativo, a tonnello positivo, ho fatto la domanda e mi avrei se gliela accettano oppure no. Adesso vediamo. A me mi hanno detto che per quell'altra domanda dovrebbe esserci, non questa settimana, l'altra settimana, 2 mesi di età, poi mi avrei, se non ci sono, le faccio un casino che le mando direttamente alla finanza. Ah, voi stavate parlando, no, Nico, non siete andati oggi da Nico, siete a casa, siete rimasti da lui? No, io sono venuto adesso, 10 minuti fa, sono arrivato e abbiamo parlato più del meno e adesso mi fa un po' male raro e me ne rientro a casa perché tanto lui qua non ha giocato, a parte sono a corto di soldi e c'ho poca benzina e dunque me ne rientro a casa e mi guardo un po' di televisione e poi ceno e mi curico. No vabbè, a me sono arrivati magari qualcosina di entrato, so che ho paura di spenderli e preferisco aspettare a Natale così raddoppiano i soldi, capito? Poi potrò anche spenderli. Mamma mia, non mi ci fa pensare, io le mani toccate, io avevo già tutto preventivato, questo e questo. Mamma mia, è una cosa allucinante, io non devo guardare più internet, non ne devo più guardare, e come vedo roba su internet la devo comprare, una malattia. Tu sei cazzo come gli altri, come una persona, tu sei male bucate, Marco lì, male bucate, tu i soldi, quelli che c'hai, mettiteli da parte, quando c'è un punto di gruzzoletto, allora... Cazzo, ci pensi dove, perché adesso il tempo di oggi, cazzo, bisogna pensarci, un domani che non ci sono le persone che ti aiutano, ti devi arrangiare da solo. Quello è vero, solo io penso sempre, magari crepo oggi. Cazzo di ero, mi hai svegliato che stavo dormendo. Tutte le cose, invece me le sto godendo tutte. Sto togliendo tutti i gusti. Non penso al domani. Vivo giorno per giorno. Sì, vabbè, ma così il discorso è questo, che bisogna pensarci anche per domani, perché domani ne sei molto cazzo, mettendo le corna. Io auguro che il tuo parente o qualcuno del tuo familiare duri 100 anni e poi una volta che va via lei ti troverai ben male, Marco, e come mi troverò io male se dovesse andarsene via la mia madre, capito? Perché senza di lei io sono rovinato, a parte non c'ho lavoro, non c'ho niente e poi non mi dà nessuno. vai a chiedere il mantenimento a qualcuno e non ti lascia nessuno, hai capito? Ma lui già vive che cuocuomane. Beh, Claudio, ancora intasato, sì, sente la voce nasale. Sì, intasato giù, giù, c'è la classe per ieri. Ciao, Giuseppe. Ciao, Claudio, buonasera. E allora, lui già sta bene che cuocuomane, capito? I cuocuomane vivono tranquilli e sereni. Sì, vabbè, il discorso è quello che gli ho detto io. Lui deve passare a domani, perché cazzo se ne manca la madre, non so come da dove campa, è come è lo stesso problema mio. Se ne manca la madre, da dove campiamo noi? Io da mia zia. Mamma mia, l'hai visto terrorista? Quella te li fa sudare però i sciotti. Oh, vabbè. Certo, Giuseppe ha messo un po' più male, ma io, tanto altri cibi sono finiti così. Io di andare a mangiare a Caritas problemi non ne ho, capito? Se succede, se dovesse succede, vado a mangiare a Caritas, vado a dormire, certo sarà brutto rispetto adesso, non potrò più parlare al baracchino, ma pazienza. Alla fine di Rosa Verde fai. Deia. Ma dice Rosa Verde in realtà aveva dentro dei barattoli o botti o cos'era un bel di soldi, li aveva messi già. Non me lo ricordo, un ragazzino io allora. Così, Giuseppe non è che ha tutti i torti, bisogna pensare anche a un futuro. Bisogna pensare a un futuro. Io sono arrivato, ma ho paura sempre per mia figlia, capito? Quindi le leggi che ci sono, che ci 67 anni, la pensione che non arriverà mai per i giovani, è un casino. Io che non ci sarò più assieme alla mamma, perché non è che Gesù Cristo ci lascia a 100 anni, speriamo. Però quando vengono poi a mancare i genitori iniziano i problemi, soprattutto per i giovani che non hanno un futuro, capito? Non hanno un futuro. Mia figlia lavora, tutto, però è un casino. Avanti Giuseppe, che mi sta chiamando per rompere il ballo di mia moglie. È così, è così. Il discorso è quello, caro Marcolino, è così. Quando non abbiamo futuro, non abbiamo pensione, non abbiamo mai avuto, non ci hanno mai versato contributi, tutto quanto, noi andremo a pigliare quella mini di pensione. Cazzo che non riesce manco a uscire fuori casa, perché tanto quelle che prendi le devi mettere per la casa, per cui se vuoi andare avanti. E già lo credo. Oh Giuseppe, ma tu non avevi, voi non avevate un bar alla stazione, ma che fine aveva fatto? Già in Alicante quello che è deceduto, da quando è morto mio padre, sono successi un po' di casini, tutti quanti se ne sono lavati le mani, c'erano troppi problemi e dunque abbiamo rinunciato a tutto quanto, perché sennò se volevi lavorare ti dovevi pagare i debiti dei genitori, dunque io soldi al momento non ne avevo e ho preferito rinunciare, sennò sarei andato avanti con quel fatto, hai capito, e nessuno avrebbe rotto le scatole, però quando sono in mano ai genitori hanno fatto tutto quello che potevano fare, grazie a Dio abbiamo lavorato su quanto potevamo lavorare, poi una volta che era in mano a loro non c'è più stata la possibilità di poterlo riprendere, perché fatto non dipendeva da noi, dipendeva dalle ferrovie, mi avrei sentito rinnovare la concessione, hai capito, tutto quanto, la licenza, lì dovevi pagare un bel po' di soldi, un pacco di soldi per il rinnovo e dunque è più il reddito le altre cose. E a chi è dentro viene un po' male, a chi è fuori è molto difficile, hai capito? È un casino insomma, dai, un casino. Tra coso, soldi debiti, concessione, non macello, dai, ho già capito. Bene, più è bene relativamente, dai. E Pomponio può parlare? No, Pomponio è impegnato con il telefono che lo sta mettendo a posto e è impegnato per quello. È capito Marco di com'è il discorso. Comunque, io se avrei avuto la possibilità l'avrei ripreso il barattazione, ma solo che da solo non ce la fa, non ce la potrà mai fare, perché tanto deve avere almeno meno lì di avere un bel di fondi, un bel. Poi devi assicurare il personale, tutto quanto, i contributi, quella là, e 13, tutto quello che c'è da pagare, alla fine lavori gratis e poi inutilmente. Eia, poi rilancio Claudio, Devo dire, ma ti sei inserito nelle graduatorie del personale ATA per fare il bidello a Sassari? Tu basta che richiedi Sassari e dintorni, tanto la macchina ce l'hai, in graduatoria, e quello non fanno niente, ha ragione Claudio, bidello è il lavoro dei mandroni, stanno lì, portano qualche circolare, ci pigliano il caffè, in quella gabbietta dove stanno loro, non fanno nemmeno le pulizie, perché lo danno le pulizie, le fanno le imprese esterne. Allora, trovare il posto come bidello sarebbe bello. Lo so Marco Di, ma ricordate una cosa, che all'età nostra non ci piglia nessuno a noi, ormai abbiamo superato una certa età, hai capito? Anche se fai domanda il bidello non ti pigliano, perché sei già grande, non hai capito che sei grande, vabbè, non lo so, tu quanti anni hai grosso modo? Tu quanti anni hai? Dimmi quanti anni hai tu. 46. Conta, 46, arrivare a 51 quanto ne manca? 5 anni. 5 anni? E 5 anni sono tanti, hai capito? 51, adesso nel frattempo la prossima non è quasi 52, dunque, a la nostra età ormai non ti piglia più nessuno, perché cazzo ti devono assicurare, ti devo fare quello, anche se tu fai, quando capita l'estate, ti fai 4 mesi, 5 mesi di estate, non lo raggiungi mai quanto la cosa di quando sei assicurata, capito? Insomma, nella caccia siamo, dai. Ma pensa ai giovani di adesso che non avranno, secondo me, non avranno manco la pensione. Claudio, riprendi. È lì il problema, capito? Non è inutile a 50 anni, Marco. Non ce ne legge, ormai assumono sino a 30 anni, capito? Non devono essere manco compiuti con sistema apprendistato, ancora esiste per i contributi, con le leggi regionali. Superati i 30 anni non ti assume più nessuno, perché non hanno svincoli per poter per la contribuzione, capito? Per le agevolazioni, per tutte le cose che ci sono, quindi hai ragione Giuseppe. L'unica cosa è fare le stagioni nei villaggi, nelle cose, a 4 mesi e tirare a campare, capito? Lavori 4 mesi, poi ti fai un anno di disoccupazione, poi ci riprovi e vai avanti così. Purtroppo è così, c'è da fare. Io la mia fortuna è che ho iniziato da ragazzino, sono arrivato, mi mancano questi 2 anni e me li hanno dati come lavoratore precoce, quindi infatti neanche stamattina ero negli uffici, sto preparando alcuni documenti che mancano per portare all'INPS, però il problema non è il mio, io ripeto sono arrivato e va bene così, il problema sono i giovani. E nei giovani inserisco anche mia figlia, perché ha 30 anni, ha già 10 anni di contributi versati, perché ha iniziato molto giovane a lavorare, grazie a Dio sta lavorando, però quando ci arriva la pensione? Quando ci arriva? Ci arriverà mai, quindi come dice Giuseppe, fino a quando ci sono i genitori, una mano si può anche dare, capito? Però poi quando ci sono più genitori, il discorso per i figli iniziano le problematiche, non c'è più quell'appoggio morale, fisico, serve una cosa e non sai a chi rivolgerti, le persone che prima c'erano non ci sono più, non fa una grinza il discorso di Giuseppe, ma purtroppo è così, quando eravamo ragazzi noi tutto filava liscio, perché era molto più facile andare avanti, oggi è molto più difficile per i ci sono, è per tutta la burocrazia che è nata con tutta la vergogna politica soprattutto che si è inserita nell'ambito lavorativo, capito? Eia, la scarità. Ma non male, anzi, che tu hai finito, giustamente sei a posto, ma quelli che i ragazzi che iniziarono a lavorare da adesso, giovani, mamma mia, altre metteranno due figlie. Oh, ciuciu. Ok. Oggi ero, siamo andati al McDonald's, ero molto ansioso. Molto ansioso, respiro corto, ho detto, va, questa è giornata d'infarto. No, era un po' di ansia, un po' troppa ansia. Poi sono arrivato a casa e mi sono preso un attimo di ansiolitico. E adesso sta facendo effetto, dai. Normali tutti. Eh beh, giustamente può capitare, no? Quindi ho mangiato un po' affannato, ho mangiato così, ho mangiato nervosamente. Sì, è bello che tu devi cercare, te l'ho già detto tante volte, cerca di mettere un po' più rilassato, esci un po' di più, non ti chiudere in casa, anche se non ci sono i soldi, non c'è quella, non hai grandi necessità, grazie a Dio, sei a casa di mamma, quindi insomma si tira a campare, però non stare chiuso perché non serve a niente chiudersi, capito? Assolutamente. Io la mattina sto uscendo, ma in questi giorni sono impegnatissimo, anche domani mattina devo andare nuovamente all'ufficio di collocamento che mi serve un documento, poi devo andare al patronato, devo registrare, devo andare a coppia, devo andare a portarlo all'Inps. Cioè sto cammellando nell'ufficio perché io per gennaio voglio essere pronto per ricevere la pensione, e c'è un sacco di documenti che mancavano, che sto facendo. E quindi, vabbè, sto uscendo, ma anche non avrei questi impegni, io la mattina me ne esco, non ci sto a casa, capito? Mi alzo presto, 8:30, vado a prendere un caffè, un'occhiatina al giornale, poi ritorno a casa, mi prendo il cane, faccio un giretto e poi me ne esco, vado a trovare persone, così, vado l'altro giorno, sono messo alla città mercato a farmi un giretto e senza comprare niente, non è che però passi la mattinata, a casa cosa ci fai? Se non esci diventano tutti i problemi, inizi a pensare a quello, a quell'altro e poi è un casino, capite? E che Giuseppe la mattina so che si impegna dando una mano al fratello, andare a fare due commissioni, due cosette, e cosa fa? Non deve restare a casa lì seduto a meditare, a guardarsi i muri, così è Giuseppe. Vabbè, giustamente me, guarda, mi accappa la porta qua, la mattina sono andato in via Zara a fare quella domanda del lì. Beh, non lo posso fare perché tanto non ho 55 anni compiute, capito? È quella di 182 euro, me l'hanno bocciata. Va bene, pazienza. Io sulle domande, quelle che ci sono, le faccio. Io mi butto a tutto, tu lo sai che io mi butto a tutto, però quando le cose devono andare male, pazienza. Non ho 55 anni e dunque io non posso farci nulla. Perché come ti ho detto prima la burocrazia è sbagliata, capito? Uno per poter ricevere quattrini deve essere morto, capito? Non ci sono leggi che permettono un sodalizio, qualcosa, giusto per campare, no? Per non stare alle spalle di tua madre, capito? Alle spalle, oddio, per non essere aiutato da nessuno, giusto quel poco per potermi spostare, mettere la benzina nella macchina, andare a cercare lavoro, andare a fare qualche commissione, niente, manco quello ti danno, capito? Però c'è gente che prende 10.000 euro al mese, capito? Senza far nulla, appoggiato in poltrona, e quello è uno schiaffo alla povertà, uno schiaffo alla gente che è davvero in difficoltà, perché se ne sentono di tutti i colori, ma cosa succede? Ecco, quello arriva la mattina alle poste, dammi i soldi o ti sparo, come è successo a lui, di no? Porto San Paolo lì, 35.000 euro in due, se li dividono e passano un bel Natale, capito? Perché adesso questo sta succedendo, uno non c'ha soldi, va a rubare. Giustamente, come dici tu, uno arrivato a un certo punto per dargli i diritti, cazzo deve essere o delinquente, finocchio oppure zingaro, come questi cazzo di voi comprare, è stata quelli la cosa, o casa la regione. 12 anni, 13 anni che si è messo cazzo a lavorare sino all'età di 38 per ricevere la reale qualcosa, cazzo, e gli ha detto lì pure, e non è nuovo, va bene però, E lì il problema, che se la carta non è completa, nel senso che se i contributi non li hai, hai lavorato giustamente come te tanto tempo, una vita, perché io ti conosco da bambino, hai sempre lavorato, però non c'è la carta, purtroppo non gli frega niente a nessuno, carta canta, dice quello, e qua non c'è scritto niente, ma io ho lavorato come un padre dall'inizio, avevo 14 anni, perfetto, però qua non c'è scritto niente, quindi tu non puoi percepire niente, devi aspettare a 67 anni e ti danno la pensione sociale di 300 euro al mese e fai, ma te sei la fame, hai fatto la fame prima e la fai anche da vecchio la fame, perché 300 euro al mese mi ci pulisco il culo. Che carta? Carta, papir, contributi, se non hai contributi non ti date di nulla. Questo è rivolto a te, Marco, questo è rivolto a te. Quante volte ti ho detto, Marco, vai da un capo, fatti fare modello ISE, che puoi fare tutte le domande che ti pare piaccia. Tu no, mettiti la residenza di tua zia, mettiti quello che ti pare piaccia, un'altra parte, però vai a farti questo caso modello ISE, perché tu un domani ti ritroverai lì dietro a passare indietro, perché poi non ti danno né contributi né non puoi fare domande, non avrai aiuti, non avrai questo, non avrai nulla. Ma già lo sappiamo che sei finocchio tu, ma non me li daranno mai. Io, non è che posso parare, far figurare che sono residente lì, quello è una truffa allo Stato, non ne dovremmo nemmeno parlare al baracchino e quella roba lì, non fa. Perché non fa? Io cosa c'entra? Se tu vuoi uscire al nucleo familiare di tua madre puoi uscire tranquillamente e fai il domicilio da un'altra parte, puoi essere domiciliato anche a casa di tua zia, cosa c'entra? La residenza rimane Sassari. La residenza è Sassari, il domicilio è un'altra cosa, quindi. Sempre qua, questi controllano, dico, ma com'è questo desiderio qua, ma è sempre a casa della madre, è puzza la cosa, capito? Quindi ieri mamma è caduta in camera, è scivolata semplicemente col culo a terra, beh, non riuscivo a alzarsi, non era in grado di alzarsi, chi è che controlla? Non lo so, ma io non mi fido a stare in questi trallazzi. Marco, allora, tu devi capire una cosa, che tua madre c'è una certa età, puoi fare anche la domanda di cosa di accompagnamento, perché stai assistendo una persona anziana, dunque, e ti danno i contributi anche per quello, hai capito? Però se non fai il modello ISE, come cavolo te ne danno, hai capito? Devi fare le domande, c'è una regione che viene sicura questa cosa qua, tutto quanto, e devi fare questo modello ISE, che sia l'ultima volta che te lo dico, poi fai quello che ti pare piace. Giuseppe, ma tu sei finocchio per quello che c'hai tutto. Altarista, scendo male, allontanati da quel microfono. È sicuro? Tutto quanto rauco, sì. Tutto rauco, tutta quanta rauca è la voce tua. Buonasera comunque. Ciao Giuseppe, dopo tanto. Ben sentito. Lo stavo dicendo che eri finocchio tu. Siamo andati a dare il corso in via Porotolesi assieme. Ci siamo messi la parrucca e la minigonna. Beh, però è un'idea, no? Mancanze di altri lavori. Ma Giuseppe ti aveva anche le carte a rettili. Sicuro? Carte a rettili, però c'era anche la terza gamba, però, Non lo so, io non li so i fatti tui. Io so di me. Imbarrato. Vai, Cla, vai. Arrivati là. Faccio salutare la Natalina, dai. Dai, 5 minuti di pausa per me, dai. Ok. Ehi, ehi, Giuseppe, va bene. Salutami quel cuocuomo di Antonello. Ciao Natali, buonasera, ben ascoltato, sì, però si è tratto di tutto un po' incasinato, mi sembrava Gianni Capello quando sta provando i microfoni. A proposito, non ho ancora sentito se ha cambiato la connessione, vabbè, con quel microfono che gli ho dato stamattina, vedere se esce meglio dell'altro, vabbè, poi si farà sentire. Avanti Marco. C'è una Capridua, ella. Sì, ogni volta che entra, cazzo, fischi, occupo, tutto di più, tutto di più. Purtroppo sono un po' radio, quelle che sono radio adattate, quindi spesso si scaricano subito i condensatori, hanno altri problemi, dai. E vabbè, dai. Cosa sono questo casino sui ponti, cos'è? Portanti con fischi. E vai con le punti. 432525. Che ponte è? Roba nostra è orto. No, è l'Inter dell'R0 dalle Muore. Eia. Poi l'altra sera stavo ascoltando a 6625, no? C'erano varie persone, stavano parlando del digitale, che praticamente chiami, non c'era nessuno. O non piace questo digitale, ma anche sui ponti normali, chiami e non vengono nessuno. Sono sempre i quattro gatti, e diciamo, come siamo qua in 27, quattro gatti sono. Ci sono per i ponti in VHF e qualche ponte in VHF, ma non c'è il tanto, poi già si cavano gli occhi tra radiatori qua in loco, no, a Sassari, quindi... È una battaglia senza speranza, altro che digitale. Vabbè, questo ci vuoi fare, no, ormai non interessano né i discorsi loro né nulla, né i punti né niente. Lo dice qualcuno sulla Vezzera, non riesce a transitare sulla Vezzera. Vabbè, sto ascoltando anch'io, non è che... non è casino, è normale, ma non riesce a transitare, quindi senti questi, la colla del ponte che sale e scende. Va bene, comunque, non c'è problema. Avanti Natalia. Sale e scende la marea, na na na na na na na na, la tigre della Magnesia. Adesso te lo dico lì, cuocuomo. Eia. Oh, poi c'è gente che fa solo SWL, che si mette anche l'ingresso ponte col... si memorizza anche l'ingresso ponte col subtono, tipo con un Bowen V5R, ma tanto se non devi accedere al ponte, no? Se uno ascolta solo, perché si mette il subtono, giusto, lo shift, lì è roba loffia. Io che ascolto solo non metto su bottone, metto l'uscita a ponte e boom. Qualcuno invece più malizioso si mette proprio il tono tipo 85 o qual è, si mette lo shift meno 600 o più 1.6 e lì è già troppo sporca. E uno allora vuol dire che vuole o mettere portante o parlarti abusivamente. Abusivi! Ti faccio ridere, io manco riesco, ci ho provato l'altro giorno su un occhio a mettere il tono, non ci sono riuscito, ma che me lo dà, ma non riesco a inserirlo. Dopo lo attacca Franco quando è in zona, me lo faccio fare da lui perché lui ce l'ha uguale quello che ho io, capite? La rottura del balle, guarda, no, a volte quando sono in giro non mi interessa più, ma prima me lo portavo e invece adesso non ci riesco a inserire i tubi. Vabbè, no, rimane in uscita, è sempre spento anche quello. Due nuovi, di qualche volta lo accendo per salutare a voi nel PMR, se no è sempre spento. Avanti Natalì. cosa ci racconti? Ehi, stavo mettendo il giubbotto a Curzio perché lo sta portando mia moglie. Il giubbotto lo stavi mettendo? No, a proposito, aspetta che lo do a mangiare il mio, così lo metto gli stivali. Gli stivaletti, li ho comprati i gambaletti, così non si bagna i piedi con la rete. Le prendi, Marco? Ehi, allora Antani, a parte con l'antenna da 30 centimetri, di cui ti avevo già parlato, quella da 8,90, ne ho visto una come quella che già mi è arrivata, no? Costava 6,50 euro circa. La stessa antenna da un altro venditore 2,50 euro o giù di lì. Dico 1,50 euro, forse 2,47, 2,49, 2,51. Cioè ci sono i prezzi più disparati, non c'è una regola per i prezzi, ognuno fa i prezzi che vuole. E quindi li trovi anche a 2,50 euro con le antenne mie. Quindi adesso aspettiamo che arrivi. Già quella delle due me ne è arrivata una, no? Qui deve arrivare quell'altra da 19, poi ricomprerò quella da 14 perché una sarà da te, oppure decidi un'altra, e più ordinerò quella da 30 centimetri. È che oggi, sai, siamo andati da Ocean a fare la spesa, a mangiare, e non sono andato in barca, anche perché ho paura di spendere, mi Natalì. Perché oggi, per esempio, dovevo comprare già, che ne so, mi sarei comprato già l'amaro, perché non l'abbiamo provato il draudio, due pacchi di batterie, cioè 12 mini stilo, pacco da 12 mini stilo Energizer, pacco da 12 stilo Energizer per usi comuni, no, per le pile, per tutto, e già mi sarebbero partiti almeno 25 euro, pensa. Bisogna stare attenti con le spese, è un casino. A questo punto ho paura anche di spendere i soldi, capito? Comunque tutti questi antennini qua, micro o medi, sono dichiarati centrobanda per i 4,33. Lo sai, infatti il 4,33 ha le stazionarie più basse, non bassissime, tipo 1,5, però è fatto così. Invece quella a 30 centimetri, 8 euro e fuscia, e bibanda VU è VU, quindi va bene anche per ascoltare in particolare. Vabbè, comunque quelle ritengo che vadano prese. Poi deciderò per questa benedetta, come si chiama quell'antenna, Diamond PC202, la volevo mettere in stazione quasi fissa sul terrazzo di mio nonno, così se vado lì a modulo ce l'ho sul tetto, e non so se mi spiego, no? La metto su un paletto, in modalità non definitiva ma semidefinitiva. Mi servono 5 metri di RG 184, basta, e sì, buonanotte, RG 155, Belden H155, e così volevo fare una stazione semidefinitiva. Vabbè, tu dici c'è freddo adesso, ma già ricopro, mi metto i guanti, io non faccio altro che attaccare l'apparato e l'antenna c'è già, capito? Quindi aumenta molto la portata. Vabbè, si vedrà, dai. Eia, habla bene nera. Auli uli, tu li lemble blu. Stamattina sono uscito e gli ho comprato due di quei giubbotti al cane, cazzo. Ma tu vedi di lì. Eia, ma qualcuno lo fa anche per i gatti, ma il gatto fuori casa tanto non va, e molte persone glielo mettono in giubbotto, anche perché, sai, sta venendo quel freddo, ieri c'erano 7 gradi mi pare, di sera, di notte non lo so, magari di notte è sceso pure a zero, chi lo sa, tipo alle 4 o alle 5 di mattina. Per venire neve e Sassari deve essere ai 0 gradi, 1 o 2 gradi deve essere, e allora può essere pure che venga. A me piacerebbe che venisse un giorno o due di neve, tanto da fare le foto, a fare un po' di foto sulla neve, poi pazienza, può anche sciogliere. In campagna mia la fa la neve, lì già la fa, ma la sorte quando comincia a salire, dove c'è tu, quello che ha tutte quelle antenne lì, già cambiato la temperatura, te ne accorgi proprio ma la sorte, sembrava in Val d'Aosta, ho fatto dello sport lì pure io. Eia, poi si è visto, o ieri o l'altro ieri, ha fatto addirittura ha fatto una tromba d'aria su Sanremo, perché si è scontrato un fronte caldo con un fronte freddo, molto freddo, è scaturita una tromba d'aria vera e propria, amico, una mezza tempesta, va? Roba che da noi non succede. Caspita, e il clima sta impazzendo il clima. Vedrai dove ci usciamo noi. È un macello, è un macello. Aspetta, controllo una cosa. Così ti lo posso vedere, che le avevo fatte le fotografie. Aspetta, roba buona, no? E una Canon, cioè. Eia, ma io ormai, ho sempre avuto le reflex solo con la pellicola, poi ho preso sempre roba compatta, però la Canon compatta che avevo precedentemente, che è stata distrutta da mamma, era bella, non aveva rumore video, questa invece che ho preso c'è rumore video, non vale lo schiaffo, capito? La moto è una Nikon Coolpix, di chi c'è proprio da taschino, si può stare in una tasca di quando c'hai l'abito, nella camicia, ma non vale lo schiaffo, dai, è ridicolo, è la moto migliore la Canon di prima, purtroppo la facciata, le calza nel lago più volte, poi tutta graffiata, tutto, ma schifo, l'ha distrutta. Questa l'avevi la calibro 9 che avevo prima, di questa qua, che ho adesso. Oh, tu mi avevi fatto vedere una, cos'è, una tanfoglio, cos'è? Oh, non mi ricordo. La tanfoglio, l'ho trovata qua. Solo che a me sto nome tanfoglio non... Oh, saranno buone, ma non mi piace come nome, non lo so. Sono buone, sono, ma la sorte altro che noi. Sì, magari hai ragione tu, cioè la beretta è più commerciale, ma la tanfoglio fa roba un po' più rifinita, più precisa, chi lo sa. Beh, ce me l'hai detto tu, io mi fido. Comunque mi stanno piacendo queste Glocke, anche queste pistole tipo le nano pistole, ho visto la Tomcat, calcio in polimeri, ma il padre sia della beretta la Tomcat, bellina mi, leggera. La mano io ho visto quella piccolina, ce l'aveva uno che veniva a sparare con noi, oltre alla 44 Magnum, il berettone tradizionale, che qui sono via, un caraccio. Eia, poi vediamo chi rientra qua, Claudio è andato alla laranja, Giuseppe ci sei? Forse hanno chiuso, ma capito, aspetta che vado a pigliarmi il Martini, che poi non è Martini, è un vermut bianco, è il Martini dei poveri, Buonasera. Ciao Gianni, buonasera. L'alcolismo si sta tornando a pigliare, Ma io perché gli dico che è un briacone tragico, per quello. Oh, per me potrebbero anche non esistere di curi, a canto di qui. Sì, e sono io. A casa ci sono un bel tempo, fermi, senza che li tocchi nessuno, infatti mi pare che ti rampo tutto, tanto non li... Teniamo toccato per giusti, quindi... E io lo stesso non bevo, per me ci possono essere... Quanto ne vuoi di cure? Rimanimi sempre in chili, ma lo sanno i bigli. L'alcolici in genere, neanche la birra, la bevo pochissimo io. Se la bevo mangiando la pizza così, ma se no non è che ne c'è. E infatti, io so di birra, però li corri blu più. A anche digestivo, cazzo, si può pigliare ogni tanto quando va a mangiare la pizza o cosa, però no, non siamo avvezzi noi. Invece il bacocco è vizioso, eccomi, è vizioso, eccomi qua. No, ho gustato proprio un fondino, quanto è, 8 mm del bicchiere di carta, no, di plastica, 8 mm. Questo vittone che sarebbe un vermouth bianco tipo il Martini, però l'ho assaggiato, oh, siamo lontani anni luce dal Martini bianco K. Tanto per riscaldarti, invece per bruciarti lo stomaco. No, per bagnarmi le labbra così. No, se voglio scaldarmi già c'è il rum, il gin, il brandy. Cos'altro c'è? Il latte di soccer, a me. A te, grazie a te, era quella. Prova da matti. C'è il teschio disegnatomi con le ossa incrociate, quello è mortale. Ma sai come si beve il latte di soccer? C'è scritto dietro, ma te lo faccio vedere. Ma una volta me l'ha offerto Torino Kawasaki, questo latte di suocera, mi ha fatto scribacca. È fortissimo, mi Natale. Ah, mai assaggiato. Un giorno sono andato a casa di Torino, me l'ha offerto un cori, un po' di bruciori. Anzi, l'ho bevuto pure per una volta, per poco non credo, cazzo, mi è diventato un fumo. Sì, mamma mia. Poco di Russia mi sembra che te l'ha fatto assaggiare, un altro. E lì bevono forte perché c'è freddo, loro pensano che con i cuori si scaldino, invece si bruciano. Una volta sono andato a Rune, sono andato, c'era un freddo che io mi giubbotto in coso, tu vado da Padu, vari un freddo, manco tre ne accusavi. Fatti vedere amici di Rubaisi in manichi di camicia, beh di Rui, tutti quanti, tutti assuttilleri. Ero grille, lasci cadere. Avranno fatto il pieno. Tutti per di faccio lui erano, io ho vero, la forza di virus verde. Ma è bello che non scalda, brucia il cuore. E io già lo so. Allora. Ah. Questo latte di suocera è un amaro, diciamo un liquore senza erbe, quindi un amaro di erbe, non un amaro, è un liquore di erbe, no? A 75 gradi, però non si beve mai puro, assolutamente. C'è scritto dietro nelle istruzioni. Allora, in una dose di 30-35 grammi, credo sia 35 millilitri, 30-35 grammi, aggiungere un cubetto di ghiaccio e aspettare pazientemente che finché si sia sciolto. Capito? Metti proprio un goccino di... immagina, di 30 millilitri, sono tre siringhe, quelle che per fare i prelievi, no? Per fare iniezioni. È un cubetto di ghiaccio, quindi c'è l'acqua e ti dirò che è buono, è un amaro di erbe, lo dalle con l'amaro, è un liquore all'erbe, ma ti scalda il cuore, anche l'anima ti scalda. Io l'ho bevuto liscio da Torino Kawasaki, non lo ricordo bene, ma cribano. No, liscio è terribile, liscio ti tirassi alla gola, è schifoso, no? Questo è fatto per essere bevuto in un certo modo. Ma non le sto mai toccando. Adesso ti dico cosa c'è scritto. Diabolicamente vigoroso, latte di suocera. Poi c'è una scritta in tedesco. Bevanda spiritosa, senza erbe. E poi c'è il teschio con l'ossa incrociante. E c'è scritto già usato dalla pirateria malese. Pronto e imbottigliato dalla distilleria Zanini Spa. No, il serrente. Vabbè. È rientrato Claudio in pari, Claudio. Sì, qua sono io. Ciao Gianni, buonasera. Ciao Claudio. Ehi, ma lo fanno in Italia, così, no? Come già? Lo fanno in Italia, allora. Sì, almeno imbottigliato, dice, vediamo. No, prodotto imbottigliato dalla distilleria Zanini SRL. Nello stabilimento di Giuliano V. Vicenza, credo che sia. Sì, Viterbo. Cos'è? V o VT? V, VUI, perché VT è Viterbo, credo. VUI sarà Vicenza, o VC è Vicenza, ma non lo so. VC è Walter Close. No, VC è Mercedes. Perché vorrebbe Roma. Viterbo, Viterbo. Cioè Vicenza, Vicenza. E vabbè, qualche errore. Interessante che sia vista, è quello lì che non lo sa. Io la botta l'ho bevuta, non dico più. Va crepato. Ci ho fatto tutto un fuoco. No, io non l'ho mai assaggiato, non so manco che sapore abbia, però so che è molto forte. Perché l'ho assaggiato anche da rinchiuso un cabazzacco che l'ho portato, sono andato e me l'ho fatto tutto. Ma cazzo, si è stracciato del risato. Al futuro, quanti gradi va Marco? 45, quanti gradi c'è? 75. Figurati tu, alcol puro che. Sì, ma come ho detto io, non si beve così, si beve a piccole dosi con un cubetto di ghiaccio, basta che ci sciolga e poi te lo bevi. Ed è buono, nel cuore d'erbe, sì. Ma c'è un po' di alcol, capito? Non è solo erbe, è un problema. C'è la dose d'alcol che è un bel forte. È bello bere un liquore che è gradevole, ma anche attaccato sotto il cubotto, come tutte le cose, quando la cosa è esagerata, per me non va bene. Natale, avanti. Natalino del pesce. Oggi ha fatto i vestiti a costo, a tutti. Ha scelto. Claudio. Già stai uscendo. Ma la sorte, allora al cine. Ah, ci stavi tossendo. Figuria. Vabbè, lì c'è andata la carica, perché ho detto io. Ehi, ne ho preso due, uno gliel'ho preso anche col cappuccio, già sono un po' coperti, a Siruela, tu. Mia moglie c'ha le fotografie, gli ha fatto. Dopo gliene faccio una io, quando torna, e te la mando a vedere. Ho visto, l'ha messa su Facebook. Le ho pure scritto... Quanto è bello occulto oggi, mamma e papà gli hanno comprato il vestitino. Eia, eia. Capito così? La mandatura, però ce l'hai in braccio e non si vede bene, capito? Ce l'hai in braccio e si vede la parte di sotto. Ma è impermeabile lì. Adesso devo pigliare un golfo, ma che cosa? Per non... Quelli lì sono, se li voglio mettere quando piove, no? Quelli vanno bene, sia quando piove sono come i piumoni. Quando sia quando piove che... perché sono imbottiti, ti ridanno anche caldo. E infatti, se la dimorendo i colarisi ci mangiano quando va giù bucciato. Vera freddo, vera, perché lui c'ha il ferro corto e quindi anche Tyson deve essere così. La tribunale si trimoneggia, ma io ne lo metto quando vado presto. A meno che sia bagnato, allora almeno uno solo, io ne ho preso uno solo. Tu la sei pagato? Ah, una decina di euro l'uno. Allora, sì, sono accessibili. Infatti. Se vai a comprare dei gusti animali, paghi una vacca di dinamica. Vado avanti a comprare all'inchini. No, ma infatti. E poi c'è anche un mangime, le crocchette buone che ci hanno qui cinesi, con le miglior carne. Quelle lì sono senza conservanti e senza coloranti. E ha bisogno di qualche pizzano di piatti, neanche la mangia, ma si ha un sacco, era... Non la mangia, non piace. No, per quelli che compro io. Farmaceutici. E ti da quello rimagna? Beh, se vuoi te lo do un pochino a provare. Capito? Sono piccoli. Oh, mio, sono qui di mangiare adesso. Non avevo anche della trainer e non rimagna più. Sono qui di mangiare. Sono della farma. Farmamente. Della farmamente, capito? Un'azienda farmaceutica che fa anche mangimi. Lo portano sino a casa, un sacco da 25 kg, 38 euro, capito? Funziona bene, il cane è perfetto, c'ha tutti gli alimenti, puoi scegliere tu, o solo pesce, oppure c'è solo carne, oppure vitto, carne e verdura. Vabbè, il mio li sta mangiando benissimo, benissimo, le ho provate tutte. Tutti, questo la farma, ma deve stare mangiando molto bene. Se va bene così. Quindi, Marco, dai, tu latte di suocera. Faccio col teschio. ricordatevi, chi lo beve puro è scemo, proprio non si beve così, non si beve così assolutamente, è come bere lo champagne caldo, si fa il bicciu. Le bottiglie, mamma mia, le bottiglie adulterie, bisciughe, fa la morte proprio, 75 gradi, questo è alcol puro, questo tibucca le bovella. Poi quella scritta in testa, cosa mi pari? Quella roba che davano contro gli ebrei, il ciclone B, quel gas, quel barato lì di roba gassosa, il ciclone B, e pari, siamo la stessa cosa. Sì, lo so. E vedremo il tuo cappotto. Ehi, hey, allora mi sono conosciuto. Ma tu gliel'hai fatto? No, glieli ho comprati due. Uno anche col cappuccio, Tu dovevi dire, tutto baglioso. Via da te. Io l'ho trovato per Filippo. L'ho provato mille a casa degli animali qua, via Buda, per Gioppa da niente. L'entrano in anche. Non tira la giandiera perché c'ha tutto il petto grande, capito? Non c'è cose grandi. Ichisi, L4, ichisi, e non la butto una. Perché provo a vedere se ce l'hanno lì, la bricocina, là, dove li ho comprati io, costano anche poco. Gianni, visto l'hai? L'ho visto, non riesco a leggere le scritte però. No, non l'ho visto l'altalì, non mi è arrivato ancora. Però ti è arrivato il mio. Muovo qua. Comunque ci faccio spavento la bottiglia, Che? Ah, di me, l'ho sbagliato io. Millomi. Ripicto, vedi? Le freccine sono illuminate tutte e due, bianco. Appena le leggi diventano blu. Gas le leggi? Ancora no? Ah, ma non puoi accennare qua, vabbè. E qua siete guardando? Sì, Gianni si è aperto la foto del latte di suocera. Sì, c'è una bottiglia abbastanza inquietante a vederla, È una bottiglia un po' particolare, ma quel 75 è da paura, Minchia. Beh, conta che l'assenzio classico è 68 gradi, però devi mettere un terzo d'acqua, due terzi di assenzio, capito? Due terzi assenzio, terzo acqua. No, voglio dire un terzo assenzio, due terzi acqua, oppure un quarto assenzio, tre quarti acqua. Capito come va? Qua non ha quasi perché è roba indicibile, dai. Beh, 75 gradi non è bucia di gioca. È un bel forte, parecchio. Ma io non sento parlare, ma non sapevo che liquore. Non so. Ma quale? L'assenzio? No, la trisciocera. Eia. Ma niente di che, guarda, una volta che lo bevi col cubetto, che praticamente il cubetto fai che sia quanti millilitri sarà. Una volta che si scioglie, è un buon amaro d'erbe, un buon liquore d'erbe. Però sembra un po' forte. Io è forte, sì. Meno male che non è il latte di suocero, eh? Se fosse il latte di suocero magari non è così forte, sarebbe un po' più denso. E di colore tipo orzata magari, no? Dipende, può essere orzata, può essere anche un po' più chiaro, vista l'età. Che schifo! Il suocero punto per riempire le bottiglie. No, andata lì, io sono già andato, li ho fatti tutti, capito? Non ce n'è, adesso ho chiesto a un'amica di mia moglie che è sarta, gli ho dato un giubbotto mio di quelli larghi, capito? Le taglia le maniche, sotto glielo fa misura, le mette la cerniera, glielo costruisce lì, capito? Glielo fa lì. Io ne ho visto uno proprio oggi, che ce l'aveva, ma lì stava a questo stretto, tutto stilato. sta vicino a casa questa ragazza. E ce l'ha un inglese. Un dog inglese come tipo. E penso un bracciccio bruento. E ce l'aveva, però gli stava stretto stretto. No, io avevo un giubbotto, rosso che lo mettevo e l'ho fatto vedere alla questa sarta. Ho detto sì, sì, glielo faccio io da qua. Taglia le maniche, gliele fa bene, dai, come si dice, isolato, insomma, poi sotto lo mette la cerniera, sotto il pancio. E glielo fa bellino. Tanto cola non ne ha, quindi cola libera. Più coperto sopra e sotto la pancia, col collo un pochino alto là, che mi arrivi vicino alla testa, perché non ne ho trovato già, non ne ho trovato nulla, ne ho provato mille, ne entrano un petto però non chiudono, rubetto di vaso gani, una cosa disastrosa, vabbè, e io sarò porto adesso, non frega niente, anche se non c'è il giubbottino, c'è quella gottena che va, già non ne soffre freddo. Sì, ma posso la cenera, fa di mettere lo stesso strato come sono gli originali. No, la cenera ti viene un po' male a chiuderla qua sotto la faccia, poi ti fai. E meno lo stesso strato, no, che tu praticamente lo metti a misura, attacchi. E infatti, ho stipistrato, e gli ha detto vabbè, lo mettiamo una cerniera, qualcosa la chiudo, sicuramente lo metteremo, ho stipistrato come ho detto tu. Era bellino, un bel rosso, capito? Se ne avevo visto una bella lì, una bella veramente, una imbottita juventina, che l'avevo misurata, l'ho trascinato a un certo punto, poi quando arriva a sotto il petto non chiude, non fa, una bottone bella. Bella, parliamo di scimaglioni invernali, l'ho detto, e vabbè, siamo già tutti ricchi, lo faccio un rinoceronte, ma te chiami, che? Ma te se l'ho preso a blu, metti c'è tutto blu, completo blu, c'è taglio blu, collare blu, e anche spero blu, non celeste. Sì, celeste, dai. Certo, sì, malato, questo celeste. No, io Filippo ho un taglio pettorina rossa, non celeste come piace, oppure c'è un altro guinzaglio pettorina marrone non scuro, poi ce n'è un'altra che è lo stesso, è rossa, guinzaglio pettorina, già ne ha lì. Il giubbottino mi piace il rosso, fino anche un altro nero che lo mettevo, stesso da demolire, da buttare, però mi piace più il rosso, più vivo, più bello, capito? E vabbè, cioè perché avevo un giubbottino bello, non lo mettevo più, con la pelliccia da orso, che dovevo fare il coso, tipo un scaldacollo, come si dice, non riesco a trovarlo più. Io l'ho visto comunque un cane vestito così con un giubbotto così, però chiudeva sopra. Sotto sopra lui è troppo largo, troppo grosso, capito? Quindi non l'ho trovato. L'unico taglio ce l'aveva qua alla casa degli animali, erano due XXL, mi entrava bene però non chiudeva, non bottonava, e lo strappa, costava già 40, quasi 50 euro, capito? Quindi non mi ha giubilato quella battita da bui, non gliel'ho preso. No, bello, c'era una pellicetta da mettere, sembrava con questa pelliccia nel collo, così messa nel collo, no, con questi strap lì, sembrava un ricci di ciocciù. E provato da quando andare? Tutti li ho fatti già, tutti. Devo vedere su internet, ma adesso ti ripeto, glielo sta facendo la SAP, una amica di famiglia, glielo sta facendo, faceva andare, invece me l'ha fatto, uno ne mangiava più basso, se me l'ha fatto glielo ritiro, però volevo cercare perché uno non va, bisogna fare un altro, tipo kiwi, capite, tipo pioggia, no? Perché quando piove dopo non esce, quindi già non c'è, non c'è il rischio che si bagni, là. Lo so, e vabbè, ma qualche volta già capita che qualche gocciolina scende. Io l'altro giorno c'era quella pioggia fritta, piccolina, scendeva poco, però si bagnava. Siamo stati a casa e c'era c'è più volte, però l'ha coperto, dai. Stava solo un po' la testa bagnata, l'ho asciugato con uno straccio e via. Cucù! Fantastico. Sono sempre io, salve. Claudio, vuole sapere se ha visto la foto. La foto che ti ho mandato dall'Assenzio. Romiduse, ora sta guardando. A me piace il sapore della sabuca, quello sì. Sì, quello sa un po' leggermente di anice, però non dolce, è una cosa da strana. Una cosa da strana, eh. E lo sai chi tu, Marco, l'ha fatto? Assenzio, fallo vedere a Ilaria, appena è possibile, a chiedere se lo conosce l'Assenzio. Guarda, è un distillato di erbe che veniva prodotto nel fine 800, poi nel 1910 credevano che avesse proprietà simili alla droga, perché contiene tuglione, e allora hanno bloccato completamente la vendita dal 1910 fino al 2003, mi pare, dove si sono resi conto con la scienza moderna che non c'era niente di droga, niente di cosa, hanno ricominciato a fabbricarlo. Cercando, certi sono proprio acqua sporca, no? Certi sono fatti come nel 1800. Ma sai quanto costa una bottiglia di Assenzio? Proprio quella che imita quella del 1800. 70 euro a bottiglia. E cos'hai detto, carica di coglione? Io? Ehi, questa bottiglia è carica di coglione. No, tuglione. È una sostanza che pensavano fosse droga, invece non è niente, capito? E dopo, quant'è? Dal 1910 al 2003, insomma, hanno ricominciato a produrlo con i vecchi principi. E ti ho detto, una bottiglia di quello proprio, il più buono che c'è, il Pernofils, 70 euro a bottiglia, non so se mi spiego. Andiamo a rivedere al Toglione. Non conosco queste bottiglie, poi me la faccio vedere a vedere se magari con la sua esperienza alla barra mi ha avuto la possibilità di vederla, non so. E quindi Giannino, com'è? Tutto a posto, lavoro? Sì, già. Sì, tutto a posto. Stavo dicendo, non penso che sia un rincuore che va adesso. Sono il cuore dei danni di Pitana. Non penso che sia prodotto per il... cioè che lui spenga venduto nei bar. Non so, io non le ho mai viste queste bottiglie. Io sono dei cani nei bar. Qua poi a Sassari non ne parliamo già. Adesso te ne dico una. Dimmi. Ho visto questo, sapevo che era una cagata, ma per quanto fosse una cagata la volevo assaggiare. L'Oxenta, allora il mio, quello che ho io, no, costa sui 25 euro a bottiglia, 25-30 euro a bottiglia, diciamo c'è un voto 5,5, certo non è il peggiori, perché ci sono certi che sono stati votati tipo voto 7, proprio era, l'hanno chiamato, certo, un tipo di vomito di pompo imbottigliato, ti dico solo questo. Questo è un voto di 5,5, 5,5, eccetera. Diciamo che è l'assenzio dei poveri, no? L'unico che puoi trovare a Sassari è che costa abbastanza poco. E ho preso in questo bar che adesso ha chiuso, no? A fianco a via Roma, a fianco a De Romo. Questo Xenta, no, sapevo già che era una vaccata, ma non immaginavo fosse una vaccata. Questa me l'hanno servito come i cani, me l'hanno riempito mezzo bicchiere. E io ho detto, ma non si prende così. Ho preso, c'è tutto un cerimoniale che adesso non vi posso illustrare. Poi uno schifo già, uno schifo, ma solo sbronzato e buono. Sono tornato a casa muro, con mal di testa. Una bottiglia, non era amaro, perché ma se fosse stato amaro sarebbe stato anzi leggermente più fedele all'originale. Era acqua colorata di verde, con un po' di zucchero, una gaggata. Lo Xenta non è nemmeno recensito nei siti di Assenzio, cioè è proprio acqua Assenzio giocattolo, mi hai capito? E comunque i buoni, guarda, ce ne sono anche economici, ci sono gli Assenzi bianchi tra virgolette, tipo un Blanche de Fougerolles, ci sono gli Assenzi verdi e gli Assenzi La Blé, che non sono blu, ma vabbè, ce ne sono vari tipi, costano dai 22 euro a bottiglia, ma buoni, Ma tu li prendi per collezione oppure li assaggi? No, me li bevo. E praticamente questo ha un sapore leggermente di anice. Adesso, sai cos'è già? Nel discorso, aspetta che abbasso qua, ecco. È un discorso troppo lungo da fare, è semplicemente un drink rinfrescante, capito? Sale di anice, ha un leggero, dovrebbe avere un leggero tono amarognolo, perché l'assenzio è un po' amaro, è un'erba amara. E poi per essere per l'assenzio deve essere distillato, rigorosamente distillato e non macerato. Per essere l'assenzio vero non deve avere l'anice troppo dolce, ma deve avere quell'altro tipo di anice meno dolce. Deve essere, insomma, ha dei rigidi cuori, questo è, in confronto, è roba per poveri, dai. Già faccio a spendere 70 euro per una bottiglia di quello pur buono, ma tanto io lo sono intenditore, io alla lingua non li sento tutti questi gusto floreale, sapore, tone di legno, notte di legno, di cacao, di vaniglia, ma mai sentite voi. E tu l'hai preso dallo spigolo? No, l'avevo comprato in quel negozio di liquori in via Roma, angolo via Manno, all'inizio di via Roma. Quel negozio di liquori, dove ti va? Non ce l'ho presente, dove c'è tre bici? Guarda, antica dolceria, antichi sapori del mondo, via Roma 19 Sassari, via Roma 19. Sai, finisce via Bellieni, inizia via Manno, no, lì salendo qualche metro più su c'è questo, o almeno c'era questo negozio di liquori, non so se ci sta più nemmeno. Ma c'erano anche, ci sono anche dei negozi alimentari che avevano tutte robe particolari, le robe che non si trovano tipo Slovenia, roba del genere. Sì, poco più su c'è Alberti, che ha delle finezze gastronomiche che non te le dico, datteri, ma datteri grandi quanto uova, noi datterini che trovi, quelli in pacco da un chilo, datteri grandi quanto uova, devo essere una finezza proprio, è che sono cari, tutte le cose le paghi, ma è roba buona, da Alberti, faccio pubblicità, Alberti, gastronomia, rosticceria, montare a tutto il mondo. E con i salumi allora? Il migliore Mangattia. E dov'è Mangattia? Piazza Università. Quale università? Quella in Piazza Università? Sì, Piazza Università. Mangattia, salumi, scemine già tutti. Eia. Beh, salumi, ma quello è un po' di tutto, è un po' roba buona, dicono. Io non, questi prezzi non ne ho mai comprato, però so che è roba buona. Bene. Eia. Va bene, vediamo chi c'è. Natalino, vai. Eia, Marco. Tu il case di un computer hai, perché non lo voglio comprare, se no mi alza troppo la situazione, che lo dovevi cannibalizzare, non so, prenditi quello che ti devi prendere e poi lo vai a me il case, che mi devo fare il computer nuovo. Sì, io te lo posso dare, l'importante è che sia adatto alla scheda che devi mettere tu, però lo devi vedere, lo vediamo assieme, io mi tolgo la RAM, mi tolgo la scheda video, due fesserie tolgo, a me interessa la RAM e la scheda video, il resto già mi tolgo, il lettore flu. E pazzi, non te ne fai nulla. E cosa te ne fate la RAM e della scheda al video? Non l'ho compreso. Per metterlo nell'altro computer fisso che ha la scheda video andata, almeno spero sia quella, perché partiva tutto dalla scheda video il problema. In più gli moltiplico anche la RAM. Ehi, ho capito. Allora ne hai due tu di computer. Allora, computer fissi ne ho due, uno più vecchio, partito dal disco, o comunque andavi a mettere al disco e si sciabidava tutto, forse la scheda madre in corto, buona sensa. Poi ne avevo uno che funzionava, che ho tuttora sul tavolino, fisso, dove c'avevo la maggiore di programmi, una marea di programmi tutti piratati, quindi roba che vale. E forse la scheda video è partita, perché appena muovevo il cavo che va al monitor, appena lo muovevo impazziva tutto, finché è impazzito del tutto, spero che sia solo la scheda video, e se non è quella che c'ho già, spero che se ne trovi una, perché lì c'ho un bel di programmi utili. In più il portatile, il nuovo portatile che avevamo preso, che aveva in fare Windows 8 o cos'era, era stato riportato indietro perché aveva dei blocchi, aveva dei problemi, dai, li abbiamo riportati indietro, preso da Ushan. E quindi a me è rimasto il portatile con XP del 2005. Ti capì? Via! Ha morsicato mia moglie! Picchialo con la porta! E a me il gatto giocando col gatto, lui l'ha fatto senza malizia, giocando mi ha tirato un gancio alla palpebra, per fortuna ho fatto in tempo a chiudere l'occhio, un bel taglietto alla palpebra mi ha fatto con le unghie il gatto, ma stavamo giocando e non l'ha fatto con cattiveria, quel gatto è troppo buono, non è capace di fare le cose con cattiveria. Ma le unghie non le togli se non lo fa con cattiveria, ma io con il mio giocavo, ma le unghie non le toglievo. E ieri mi ha preso la palpebra, meglio la palpebra che l'occhio, che la palla dell'occhio, se no me l'avrebbe tirata fuori. Poi c'è mai che mi è successo una cosa l'altro giorno. Ho spostato delle pedane, cioè della sporcizia, niente, stavo togliendo questa sporcizia con questa scopa che aveva il manico di ferro e ne mancava la parte di sopra, la parte di gomma, là. E spartando, mi sono inchinato, non mi è entrato il bastone nel giurucchio, mi sono esteso. Minchia! Mamma mia, bisogna stare così attenti con gli occhi. Anche quando si lavora che si fanno cose varie, tagliare legna, che ne so, usare la mola, non te ne dicomi. Occhiali, anche di quelli antiurto, quelli in policarbonato, perché arrischiare gli occhi è grave. E la vista è una cosa troppo importante. Qua, meglio non avere la chicchia, ma meglio vederci bene a tutti e due gli occhi. Quello è poco ma sicuro. Marco, ma nella scheda madre non c'è la scheda video? Per vedere se è quella, cosa è? PCI Express, quella che c'hai lì tu. Quella la togli e lo attacchi a quella della scheda video, della scheda madre. Perché ci deve essere la scheda video nella scheda madre. Per vedere se puoi salvare i programmi, capito? No, non li puoi salvare, cioè non li puoi travasare da un computer all'altro, perché il file di installazione è vale a trovare Natali, i file di installazione sono chissà dove, in quale CD. Però se io riesco a mettere a funzione il computer fisso del tavolo, l'altro case io te lo do senza problemi. Però mi interessa mettere, poi sai cos'è, io non so se la scheda video è adatta, perché c'è una certa velocità del bus, dei dati, me lo dicono via Bucar, io lo porto lì, mi chiedo se mi trovano i driver adatti soprattutto e se si può mettere lì, e se no che mi trovino loro una scheda video vecchia, anche usata, per travasarla lì, ok? E io una ce l'ho qua, nel mio computer, basta toglierla e metterla nel tuo, tanto sto per farlo andare. Se si riesce a salvare i dati è meglio. Tali, ma che scherzato era l'uomo nuovo, dove è finito? Non ce l'hai più? All'ecocentro è finito, maledizione. Siccome io non ci ho posto, e l'ho buttato via insieme all'altra ferraglia e al Revo. Solo che questo qui non apre dall'altra parte, capito? Io ho anche un alimentatore da 500 watt che avevo nel vecchio computer e mi metto quello. Infatti Marco si rubò pure di me l'alimentatore di Gisughis, che non me ne faccio nulla. E per non andare a chiedere ai colleghi, se no sarei andato all'ecocentro e ne avrei buscati quanti ne volevo di Gisughis. Cioè no, vai in Piazza Vecchia il martedì, non sai cantoni Raffaele, non più nulla. Ma il martedì o il lunedì è? Martedì è? Il martedì mi pare, ti metto proprio di lì vicino, poi di notte che ti ripigli il più nuovo te lo prendo. No, io lì a frugare manco perché mi vede, non prenderei roba. Non mi piace nemmeno per chi mi guarda, capito? Di notte chi ti vede? Buttano tanti nuovi a salire, perché magari all'interno non servono più, ci butta la chiesa che è ancora nuovo, io quello che avevo era nuovo, non c'è con graffi. Ehi, ehi, bene, bene, Claudius. Ma oggi c'è il KP2, non entra. Oh, pare di no, pare di no. Ma può darsi anche che entri, sono ancora le sette minuti, dai. Lui ti ha passato più fretta il tempo. Adesso ti dico una cosa io, sai come si prepara l'assenzio, no? L'assenzio di solito, vabbè, questo è colorato artificialmente, è color verde. L'assenzio naturale, quello verde, dovrebbe essere color clorofilla, non so se è presente. Trasparente color clorofilla, no? Yes. Tu metti un pochino di assenzio nel bicchiere, di solito un 30, dai 30 ai 40 millilitri, bisogna avere quella mini caraffa graduata, oppure vai a occhio. O prendi il cucchiaino d'assenzio, che è un cucchiaino che è un'opera d'arte, no? Ed è tutto forato, lo poggi sul bicchiere, poggi sul cucchiaino una zoletta di zucchero e poi butti, in teoria piano piano, dell'acqua ghiacciata, ghiacciata, più o meno lentamente. Ci sono anche le fontane che proprio goccia a goccia disciolgono lo zucchero. Quando alla fine si è sciolto lo zucchero, che hai raggiunto una certa, insomma, che è abbastanza anacquato, lo giri e te lo bevi. Ma lo sai come diventa? Da verde clorofilla diventa bianco come il latte. È una caratteristica dell'assenzio. Si chiama Lush. Lush, credo che si chiami così. Cioè, piano piano dal basso vedi salire queste specie di, sembrano quasi dei fantasmi, no? Questi giri di bianco, no? E piano piano dal basso diventa tutto bianco, diventa più o meno bianco. Il mio diventa color bianco rosata, diciamo, no? Un po' perlato. Il vero assenzio, quello buono, diventa bianco, bianco come il latte. È una cosa bella anche a vedersi già. Ma proprio una metamorfosi. Sì, una metamorfosi. E così, infatti, quello, quando voti un assenzio, devi contare il colore. Il lush, se fa il fenomeno giusto, come dovrebbe essere. Devi gustare il profumo, diciamo mouthfeel, cioè come lo senti in bocca, se è oleoso, se è secco, poi il sapore anche devi contare, un sacco di fattori devi contare. Pensa che esistono ancora bottiglie del 1800 sigillate, sai quanto costa una bottiglia? Roba di 3.500 euro, la bottiglia del 1800 originale, fino a 800. Ma contate non ne potrei bere, c'è la zoletta di zucchero, io non posso prendere lo zucchero perché per me è un veleno, e quindi non ne potrei mai bere. Oh, c'è gente che zucchero non emette, c'è gente che ne mette due, c'è gente anche che non emette, non è obbligatorio. Vabbè, ma se quello lì è, diciamo, la ricetta giusta, ci vuole. È la stessa cosa che tu fai un dolce senza zucchero, ma io qualche cosa. cambiato con luci ficcate, ma non è la stessa corte. Poi per finire, poi rilancio Claudio, c'è l'assenzio alla Bohemienne. Per me è una porcheria, praticamente tu metti la parte di assenzio appunto giusta nel bicchiere, no? Poi bagni di assenzio la zolletta, no? L'accendi con un cerino e comincia a bruciare per l'alcol, no? E quando vedi che comincia appena appena a imbrudire, la butti dentro, ci metti dell'acqua, certi non mettono nemmeno acqua, se lo bevono a 68 gradi, metti dell'acqua un po' per spegnere il focarello e te lo bevi così, ma è, cioè, zucchero bruciato, diventa un'altra cosa, capito? Diventa una buccaria. Da quando hanno fatto vedere quell'attore, no, che bruciava la zolletta, tutti adesso bruciano la zolletta, no? E quella è una specie di rituale da barbari. Vabbè, anche il porce, così detto, lo servono con la fiamma. Io quando bevevo il porce, anche poche foci, brunissimo, d'inverno va bene il porce. Una volta l'ho aperto, siamo andati a Bar Caracas con coso, come si chiama? Barbiere. Siamo andati nel bar, abbiamo invitato un porci, ci hanno offerto, ci hanno dato con la fiamma e la cosa, e io ho cominciato a bere tutto quanto, lui non ce l'ha fatta, e lui manda un primo, sono sì. E il porci è buono, ma caspita, siamo stati attenti. Comunque io sono stato a un soffio mi da ordinare qualche bottiglia di vero assenzio, ma buono mi... Tipo il Blanchette, mi ero già accaparrato nel cestino da internet, un Blanchette, costa solo 25 euro, mezzo litro, Blanchette, poi il Clandestine Lablé, Clandestine, già il nome è tutto un programma, Clandestine Lablé fatto in Svizzera, nella Val du Travers, perché proprio la Svizzera e la Francia hanno fatto una specie di cultura della zecca. Purtroppo il verde devi comprare roba normale, perché se compri il Pernod Fils ti partono belli soldi. Il Pernod Fils 1901, quello è il top del top. Poi c'è anche dello stesso prezzo il Vert Suisse, c'è... adesso manco i nomi, non me li ricordo nemmeno. Ma ci sono, puoi prendere un Vert de Fougerol, costa poco, è onesto come sapore, come tutto, è buonissimo lo stesso. Volevo acculturare, capito? Così come mi sono acculturato con gli amari, mi manca solo il Braulio, mi volevo acculturare anche con questa roba qui. Però è roba di nicchia, non è roba per tutti, no? Non lo trovi da Auchan. Da Auchan puoi trovare il, come si chiama quella cosa che c'ha di anice? Il pastis, capito? Che si beve dopo mangiato, ma che ciò è dolce, fa schifo, è dolcissimo. Claudio, ripeto. Il pastis è per noi molto meglio. Per noi va servito con l'acqua ghiacciata. Non è male, molto dissetante per noi. Ma per dire, Claudio, quelli sono sempre dei pastis, della categoria pastis. Ma il Pernod Fils 1901, che dico io, è il rifacimento uguale o quasi uguale al 98% di quello fatto da fine 800. Ti ho detto, 70 euro a bottiglia, peggio dello champagne, amici, roba da chiesi. E in Francia avrebbe volume di quello? No, diciamo che sono dei grandi farabutti, perché far pagare un prodotto così semplice anche da fare, così banale, farlo pagare quei prezzi è veramente da ladri. Mi dispiace per loro, ma è prezzo da ladri. E sono loro che impongono i prezzi, capito? Spacciandotelo per chissà che cosa. A molti può non piacere, giustamente a molti può anche non piacere. Lo so, però... Io ti dico, no, io non bevo di quella roba, mi conosco, ma non bevo, non ho mai bevuto, io non mi provo che ho sempre bevo, sempre, oddio, quando così, in occasioni diverse, per Montenegro basta ghiaccio arancio, ho detto no, non le bevo, ma lì non mi piacciono. Ehi, fascisti, fascisti, Anice, dici, mamma mia, Anice, troppo Anice ci metto, anche questo che ho io, che non è pastis, dovrebbe essere un assenzio, ma è una bomba d'Anice, Anice, mettono Anice stellata mi pare, Anice verde che è dolce. E va bene, discorso troppo lungo da fare, troppo lungo, eccetera. Ma ho visto dei muratori, cazzo, dei pastori mettendo l'acqua di rubinetto nell'assenzio. Ma questa è proprio roba da bestie. E vuol dire che ti ribiasi così, in corsi cammini, avanti le visine di Sobastis. Perché sono pasticcioni. E allora? Ma infatti glielo ho detto, in corsi cammini avevano un bel pastis per noi, proprio a Carafentere. Sono stato in Corsica e l'ho visti nei bar, c'hanno la caraffa dell'acqua ghiacciata, col ghiaccio dentro, e la bottiglia ti danno, ti versi il perno, il pastis, quello che vuoi e poi acqua, ma ci limiti in una caraffa che fa le mie vendi Eva, beh, con uomini, sapete già vi dico, che io adesso mi preparo, vado a portare il cane, così mi rientro subito, c'è mia figlia a cena. Mi ha detto, dove sei già adesso, mi sta rientrando e quindi vado a avanti a lavorare presto, che palle. Sto preparando documenti, sono 3 giorni preparando documenti, andando e tornando là, patronato, IPS, collocamento, patronato, IPS, collocamento. La chiamata quando dopo l'ufficio collocamento mi serve un certificato. Simile allo storico, buono, cose del genere, devo portare al patronato, devo scannerizzare, registrare, mandare all'IPS, mamma mia, cazzo, non esco più. Va bene, dai, vi saluto, se ci siete, a dopo, altrimenti ritenetevi tutti salutati, ciao. Ciao, sempre al coso e ci collocavo, sempre la pedone. Eh già, ma c'è un casino, ma sono andato stamattina, adesso sono andato un bel tardi perché mi hanno comunicato che c'era questo documento, invece c'erano i terminali bloccati e quindi hanno mandato via tutti, adesso non ci vado, però mi hanno fatto il numero di telefono di telefonare, quindi mi hanno al telefono prima di andare, ma per carità, non ci sono più numeri, c'è una signora che tira i numeri lì, un box all'interno, c'è un casino lì dentro che, mamma mia, vabbè, io devo fare solo un documento da lui. C'è una vagiolanda ma che va tutti i giorni lì, per carità. Vabbè. Soffrire per guadagnare. Eia. Claudio, fagliela vedere mi quella foto dell'assenzio a tua figlia. Vorrei se lo conosce. Magari lo conoscerà, ma il vero assenzio è roba da lusso mi, roba da ristorante di lusso, da ricconi. Qua a Sassari ci sono dei pastori, quella schifezza che mi hanno dato loro quella volta, poi data. Qua a Sassari sono dei pastori, ma non sono cazzobaristi, sono pastori. Guarda, se mia figlia l'ha visto in alberghi di lusso, dove ha lavorato Porto Cervoli, Alice Arrivacca, al Milano, insomma, in alberghi, magari qua della Cinque Firenze, che ha lavorato lo stesso lì in una zona balneare. Poi lo faccio vedere, perché io qua a Sassari non l'ho mai vista, sinceramente. Non so, dopo quando arrivo la faccio vedere. Ti faccio sapere. Ciao ragazzi. Non esco un po' a prendere una boccata d'aria, anche se c'è freddo, ma non ho più gana di tenere un gran. Io vedo un menti. Ciao. Ciao Claudio, ciao. Avanti Marco, avanti. Quindi anche ti sei acculturato anche con i liquidi adesso. Sì. Di quelli più conosciuti mi manca il Braulio. Era buono, dove stanno oggi, no? Il Braulio l'hanno sempre avuto, no? Costava sui 10 euro e spiccioli. Vado oggi e vedo questo Braulio strano col cartellino, col tappo tipo il suo papa, guardate il prezzo, 17,99 euro, no, insomma, versione grande riserva, ma cosa mi ne affuso, io volevo il Braulio Volgaris, quello a 10 euro, non ce l'avevano purtroppo. Guarda, il più dolce, il più profumato di rose, di gozo, era troppo anche, secondo me anche troppo dolce e troppo profumato era, poi magari era anche buono il, come si chiama, vecchio amaro del campo. A me non mi vedi perché io, lui, te l'ho detto, a me piace il sapore della sambuca, ma non è vero, l'ho assaggiata qualche volta, mi piace la sambuca, la strega, bevevo a casa di mamma perché lui mi faceva e poi di cui proprio così amaretto di Sarono, queste cose qui di giri, capito? Quando c'è freddo è buona la sambuca. Una volta l'ho bevuta lì al campo di tiro a Senere, era un freddo della Madonna. Anche a Senere c'è il campo di tiro, Natale. E di tiro al piattello c'era, c'era il campo di tiro lì, che ce l'aveva Carosello col padre. E Marco, Marco Petrato ha raggiunto, ha fatto dei buoni risultati così a piattello. È anche giudice di gara per il tiro dinamico sportivo, però non operativo, sportivo. Marco. Eia. No, ho detto chi? Marco. Eia. Eia, amore, se mi pare che ha fatto, ha vinto due gare su tre. Sparava pure con la pistola, Marco. Bravo, bravo, tutto ciò che tocca è oro per lui. Ridendomi. Vabbè, ma si sa che non si è avuta. Che ghigno satanico. Ciao, ciao, ho fatto il cazzo, non te vedi. Ah, è chi, non è vero, su motocross è bravissimo, su tiracattere è bravissimo, nella radio è bravissimo, che è cosa di qui? Se va bene a te. Com'era, se va bene a te, Bianco Sarti. Ah, il Bianco Sarti, cos'è già? Lo conosci? Bianco Sarti. Cosa sarebbe? Un drink, un amaro, un... cos'è? È un liquore, è Bianco Sarti, sì, lo sentito nominare, ma ormai è più... È come il Martini, Marco. Ah, ok, ok. Ma sai, certi liquori che sentivi da quando eri piccolo, mai assaggiati, te l'ho detto. No, perché già io adesso sto gustando solo liquori, però ma liquori, sì, buonanotte, amari da prendere dopo pranzo, solo gli amari. E comunque Vincente, personalmente per il mio gusto, Jägermeister, e quello, uffa, Claudio, il tuo. Montenegro risulta sempre migliore. Montenegro, buono, capito? Lo stesso, sapevo un po' troppo di liquirizia, invece il quello del cervo, come si chiama, Jägermeister, eccetera. Troppo dolce, vecchio amaro del capo, te l'ho detto, buono la Verna. Il Ramazzotti un po' vuoto, non lo so, un po' blando mi è sembrato come sapore. Meno pieno, meno rotondo, meno tutto. Manca il Braulio, però la versione normale voglio, non voglio la versione da 18 euro, cazzo, che costa. Amaro medicinale Giuliani. Chissà che roba era. Non era avanti che cosa va. Gianni, guarda. Marco, anche tu, che ti ha mandato qualcosa. Questo è le tue, so. E lui ha detto. Hai visto? Chiami Natalino tu. Sembrava lo stesso. Dai, torno a portare il cane. Ciao ragazzi. Le medaglie di Cuocoma ne sono quelle, sì. E allora? Eia. Ah, bello, danno anche le medaglie. Bellino. E sono delle gare. Sì, beh, ovvio, no. Più vinci, più te ne danno. Devi essere bravo. Aiuta, ci iscriviamo al poligono di tiro. Eia, però come bersaglio vorrei mettere le persone invece che... Sì, vabbè, ridiremo in chi per bersaglio, da voi diremo. Io che potrei mettere, ma nemmeno Berlusconi, poveretto. In questo periodo metterei Renzi come bersaglio. Figura umana, figura grandezza umana. E quelli che abbiamo noi sono una grandezza umana, infatti. Tu li hai visti, no, quelli che ti ho fatto vedere in foto, Marco? Sì, sì, sì. No, ma sai cosa mi piacerebbe? Proprio il poster della persona, comprese braccia e gambe, di altezza umana, no? Alto 1,70, 1,80. Capito? Ho messo una certa distanza, così come sparare alla persona vera. Estrai, bello, punti. Becchi, cose, ne so, spalla destra, spalla sinistra, cuore, fegato, palle, testa, cervello. E c'è mezzo busto tutta la persona e ci sono i punti mortali, no? Eia, eia. Bene. Allora, qua non è arrivato niente di nuovo. Quasi quasi mi preparo un bicchiere di questa Truglio, a vedere com'è dopo tanto tempo. Truglio. Io questo Asensio me lo facevo 30 ml Asensio e 90 di acqua, 3x3, 9, sì, praticamente un quarto di liquore e tre quarti di acqua, ovviamente fredda. E i cucchiaini d'Asensio sono un'opera d'arte, ce n'è tutte le foggie, tutte le misure, tutte le forme. Adesso vi mando la foto. E che ti sballa quella cosa? A Gianni gliela do io quella piccolina, la pistola, se si piglia il porto d'armi. Così almeno si diverte. Quale? Quella che c'è la moto, la sta lì. Ehi, quella lì è nuova, cosa l'avrai parato? 52, fino di più. Lasciate, non mi scoppi in mano. E basta guardare la canna per vedere se c'è qualcosa. Mica io le tengo bene le cose. Quella lì, se tu la apri, è tutta piena d'olio adesso. Quindi prima di andare a sparare la devi pulire. Lo so, ma no, sto scherzando. Cioè, lo so che le tieni bene, poi queste cose ci tieni. Beh, adesso mi faccio arrivare un processore Intel. 8 giga di RAM, di quello da 3000 MHz. Mi porto un computer pauroso. Io non ci tengo più, non sto più usando il computer, uso solo il telefonino e bookmark, non trattuare. Comunque la macchina fotografica, se interessa qualcuno, la sto prendendo 500 euro. L'ho pagata a 700 e l'ho usata pochissimo. Se interessa qualcuno, è nuova di zecca, nuova nuova. Io ne ho due, io c'ho la Canon, più c'ho quella piccolina che c'ha lo zoom e tutto. Ce l'avevo regalata a mia moglie praticamente, ma non idrata mai, però mi idrato io, di brutto. Mi diavolo niente. Cosa? Diavolo niente, dopo gli. E se non idrata, e no, chi è? Ma se la pongo dentro la borsa dell'altra. No, quella è. Quella è mia. Sentitela, no, quello è il mio regalo e faccio quello che voglio. A te l'immaginetti? Ha ragione, non gli posso dare torto. Ma lui e lui non fanno né manutenzione né nulla, gli ho tolto lo pilo, sa che gliela rovini, c'è la scheda di memoria, Guarda che quando ci sono mio figlio che devo fare la scuola. Ma già, vabbè, fammi di du. Du, arrangia di du. Sì, ma la mia è la di 60, che te è un buon po' quella macchina. Solo che non la sto più usando, non c'è più la passione natale come prima, lo sai. Ma lo sai le foto che ho fatto io, non la sto usando neanche io, ma non è rare, no, che è buona quella lì che c'hai tu, fatta al digitale. Lo sai cosa c'è? Che mi ha deluso, ho fatto un po' di chilometri, allora mi sono preposto di fare tutte le chiese dell'era bizantina, tutte le chiese antiche, capito? Poi quella di Monotore San Gaubino, Santa Maria, sono andato anche a San Caraggia, poi ho fatto i Murati, stavo facendo appunto dei timi, no? E ho fatto chilometri e chilometri, sono andato verso Bosa. E poi queste fotografie mio nipote ha toccato qualche cosa, me le ha tutte eliminate, ce le avevo nel computer, me le ha tutte, io le avevo scaricate dalla memoria della macchina e le ho messe nel computer e volevo fare una pedina, anzi l'avevo fatta e lui la stava guardando. Poi vado a farla vedere perché la mia pedina si può mettere anche nel televisore, no? Stavo facendo vedere la televisione a questa a mia figlia Manuela e a questa amica sua. Non le ha passata con la fotografia. moto addosso, mi ha cancellato tutto, sai. Cazzo che danno, perché tu dovevi metterla in un... io ce l'ho uno di quelli portatili da 500 giga, di quelli esterni, hard disk, che lo posso attaccare in qualsiasi computer che voglio io, capito? Non devi da cavi questi cose in giro, vai, beh, su tutto giacca. Ma anch'io quando fa tempo bello vado, avevo il triple freddo, vado perché io già ne ho anche filmati, ho filmato matrimonio, cazzo, con quella che ho io, perché ce l'ho nell'hard disk esterno, in modo che non mi cancellino niente, se non lo posso io non fatti, un preso. Ho fatto chiese, gli hanno già fatto poco di cosa. Io pure, però ce l'ho in quell'hard disk esterno, infatti a me se mi si faccia il computer io non peggio nulla, ma che le li bongo in chili. Ero a te, sì, io l'ho messo nell'Appennina a Minattari, una pennina grande da 16 GB, l'ho messa lì, le stavo tutte scaricate questa pennina, di modo che poi con l'Appennina posso trasferirla nel televisore e guardarmela in grande, capito? Guardarmela bene proprio. Vedevo benissimo il televisore. E fatto sta che vabbè, ha sbagliato, cosa ha fatto, qualche cosa per la cancellata. Mi voleva mettere una cosa sua e invece di mettere quella sua mi ha cancellato tutte le altre. Sono morto un giorno. E dal giorno mi è passata tutta la fantasia, lo sai. Ah già, cerca invece quando fa bel tempo magari andiamo assieme e ce le facciamo. Ti devi comprare tu uno di quegli hard disk che sono USB, li puoi attaccare in qualsiasi computer, così tu non perdi mai niente, ti scarichi tutto lì. Quello te l'ha formattata la pennina, capito? Giusto, io ne ho due, uno da 500 giga pieno e uno da 1 terabyte ancora non pieno. Ehi, dimmi già. C'è anche con gente esperta, l'abbiamo cercato con dei programmi nel computer, per vedere se riusciamo a risalire. Siamo risaliti e il file ma non li apre. Addirittura. Un macello, Oh signori. E quelli sono danni, io ho chiese, fatte, gatto, c'è un sacco di cose. E l'ho messo in quell'hard disk, perché io adesso intanto questo computer qua c'ha, lo sai perché me lo voglio cambiare? Perché c'ha le prese SATA che erano saldati i fili, io come sono andato a staccarli, perché non ho mai visto io prese SATA, siccome è di marca questo qui, non è assemblato, no? Vado a staccare il filo e l'ha già trattato tutto, meno male che ce ne sono altre due di prese SATA, gli hard disk li ho attaccati lì, in uno c'è Windows 7 e nell'altro Windows 10. Però mi compro un SSD per far partire il sistema operativo, poi già ne ho dischi da un tera io. Vabbè, se non le conosci i sistemi, un casino. Ma io c'avevo anche i primi piani di Marco Emanuela, c'avevo i primi piani di Liliana, c'avevo un sacco di roba. Tutto va cancellato. Avevo fatto delle bellissime fotografie al mare mosso a Porto Torres, proprio mentre sbatteva, ma con onde altissime. Una domenica mi sono fermato, tutte le macchine d'epoca, le moto d'epoca, la Befana che fanno i vigili del fuoco in Piazza d'Italia, tutti questi lì. Marco vestito da pompiere, quando era piccolino, che gli hanno fatto fare il piccolo pompiere, gli hanno dato anche il diploma di piccolo pompiere. Te lo immagino. Tu sapessi, è la formata della Benina, tu. Ma tu pure la punissi in una Benina e sei così. Sì, ma io, Natali, lo sapevo. Cioè, era quella la pennina e la usavo io. La di che stavo solo a me, ma ho visto che l'ha fatto, cosa arrivo io. Infatti, magari pensava che erano file che non ti interessavano e ha cancellato tutto. Che colpa gli vuoi dare a quello? Infatti, no, lui tasca, ce l'ha tutto, capito? Ah, beh, comunque. Dal giorno a Taria ci ho preso tutta la fantasia, perché io ho fatto chilometri lì, sono andato a Bosa pure. Ho fatto Bosa, un albergo che è su un'imbarcazione di quelle grandi legno, bellissimo. Ho fatto tutta la spiaggia di Bosa, le rocce, il castello, sono salito su, qua, cosa tutto non ha giù va. Cosa bella pure, Travonti ad Alghero, tutto cancellato, in un attimo cazzo mi ha perso tutte le fotografie che avevo, è appassionante queste foto, sono ricordi anche, capito? È segreto, e non è quello il danno. Immaginati che andando a Bosa c'è questo castello, questo, come si chiama, questo nuraghe che c'ha un viale lungo lungo per arrivarci, e questo nuraghe non gli manca una pietra, è perfetto, non gli manca un sassolino, niente, è perfetto. Sono dovuto saltare dentro perché c'è il recinto e lo aprono solo a periodi, no? Sono saltato dentro e l'ho fatto con tutte le sue tutto particolari, tutte le scritte, le cose che c'erano, ho fatto tutto minuziosamente. E poi tra l'altro sono andato anche dove ci sono quegli alberi pietrificati, io ho fatto quelli qua, un sacco di roba, tutta roba che era particolare, capito, e anche lontana da Sassi. Io non so dove vorrei andare, a San Pietro di Sordo, perché c'è un convento lì, e mi aveva detto un amico mio che è archeologo, che fanno i canti gregoriani, i belli gatti, i fratti. Ho capito che vanno. Fanno questi canti gregoriani, fanno i frati lì a San Pietro di Sorres. Vorrei andare a fare le fotografie lì. Io va, ho girato tanti di punti, poi con Antonio, con mio amico, Antonio quello Negroni, non so se tu lo conosci, quello che lavora alle poste. Quello lì siamo andati, quello lavorando alle poste chiede a uno all'altro, sa per dire che qualche posto bello, cos'è, mi considerano il posto. Abbiamo girato mezza Sardegna, la domenica andavamo sempre in gita, sempre in fuori. Sì, me lo posso immaginare, già lo so che è andato con quello che lavora al posto. Siamo andati lungo di posti montagna, scravi Maria, mi arrampicandoci lui. Tempi passati, ma comunque in ogni caso fotografie ne ho fatto due, ne ho fatto molte, e la macchina diciamo che l'ho presa due o tre volte per fotografare, però ne ho fatto tantissime fotografie in quelle volte lì che sono andato. Cuocuomani fotografato lì? Anche Cuocuomani. Poi siamo andati anche a Alghero, Natali, all'Arca di Noè, non so se tu sai dove. No, negativo. E andando a Capocaccia, no? E ci sono, c'è di tutto, ci sono cinghiali, le aquile, insomma un po' di tutto, animali selvatici, devi stare attento che non ti ne scivo. Ci sono gli asini bianchi, per questa cosa qua. E anche lì me l'ho divertito. Diciamo l'Arca di Noè, Paisso, pesci volanti, currodone, visombe. Sei mai stato qua? Sì, sono andato parecchie volte lì. E mi abitavo lì. Mi ho cognato, ogni domenica voglio andare in Arca di Noè. Perché non è sempre che tu puoi dire vedi l'aquila o vedi cinghiale? È a fortuna. E a me piaceva da Giovanni a Tramaridio, verso quell'Arca di Noè, in ambasciata di Zimiu. E tu sei sempre penale, dai, è qualche cosa di diverso che mangiare. Bei posti così. Io ci sono stato con l'Antonio, con il mio amico sempre, con la Greffa, dai, andavamo lì. A proposito di Antonio, ho mandato un messaggio l'altro giorno. Perché anche lui stava facendo i conti, no? Quanto le manca per... perché avevano una adesso ho fatto, diciamo, un bando interno per chi vuole andare. Ci sono, lì sta dando 3 anni, ma c'è una 2, 3 anni di scivolo, capito? Adesso tutti i problemi, ho mandato un messaggio, ma che più buono, bastardo, vedi quello, mi hai fregato. Ma Antonio, allora Antonio è più piccolo di me di un anno, e in più, quanti anni c'ha di versamento? Non lo so. Antonio è stato con la cooperativa che gestiva l'impianto di Coso, di Canica, poi lì è entrata nei depuratori subito dopo che quando l'hanno fatta nuovo, un mediano c'è Antonio, poi Sinos, lo stesso mediano, adesso un mediano dal 2005 in Abbanoa, è un mediano c'è Antonio, penso che un 38-40 ce li abbia Antonio, se c'ha 38, infatti gli ho mandato. Se hai 38 anni di contributi, fai la domanda, prenditi 3 anni di scivolo e vai, dimmi subito. E mi ha risposto col dito. No, non ce li ha, no. No, non penso. Allora, Antonio, quando io stavo lavorando, lui stava ancora studiando all'agraria, figurati tu. Non ce li ha quegli anni lì. Io stavo già lavorando, nel periodo che lui si stava ancora diplomando, figurati tu. Qualche anno in meno di me c'ha forse, non dico tanto, ma qualche anno in meno sì. Ah, io lo so perché ci andavo ogni notte lì a Carica, c'era anche Borghetto, ci lavorava. Non lo so, perché io quell'anno era a Cagliari quando lui era con le depuratori sarda lì dove andavi tu, capito? Lui era a Cagliari, io non so in che anno è entrato lui, io vabbè sono entrato nel 91, ero a Cagliari, ero già nel settore, io non so lui che anno è entrato, comunque penso che 35, 36 anni i contributi ce l'abbiano. Se da 3 anni non ce la fa, deve avere almeno 38-39 anni di contributi, si prende lo scivolo di 3 anni, gli ha messo la mano a disposizione, mamma mia. Antonio ci ha fatto anche una bella casa, abbiamo fatto una rostita quando non era ancora finita, però che l'hanno fatta vedere, c'è un po' di bagni, tutto qua toccato firmato, Valentino, tutta roba così, tutta firmata. Tutto lui ci ha fatto, stava il tetto che l'ha dovuto far fare il gettito e il tetto, basta, tutto. Io vi saluto, buonasera a tutti, dai, vi ascolto, però non entro più, che sto cenando. Ciao a tutti. Buona Massimiliano, grazie per i saluti, contraccambiato. Massimiliano, io non so per voi ci rifiuto, ci arrivi da là a portare un gane, ciao, buonasera, ben ascoltato. No, dai, mi sono alzato giusto per salutarvi, dai, che era un po' che non vi sentivo, che non si sentiva più nessuno, no? Vi saluto, cielo e parto, ciao, buonanotte a tutti, per me buongiorno. Ciao Massimiliano, dai. Buona cena, buon tabacco, ci sentiamo alle prossime, ci aggiorniamo. No, è perché è arrivata la mia figlia e il cane stava rompendo le scatole, già capito. E comunque se Antonio c'ha il 38, già ce la fa andarsi, se 38 non ce li ha deve aspettare ancora. Non c'ha manco gli anni, ti sto dicendo che Antonio ha un anno in meno di me, quindi non c'ha manco gli anni. Se io ne ho 50, tu ne hai 57. Io ho capito, non c'è da niente, adesso parlo di contributiva. Se c'hai i contributi, anche io ho le tattue, eppure sono già fuori dalle balle. Non c'è da niente, io infatti lui gli ho detto, se c'hai 38 anni di servizio, falla la domanda, visto che Abano ha messo questi 3 anni di scivolo per chi vuole andare, capito? Perciò, però non lo so esattamente quanti anni c'ha, lui mi ha mandato il dito come a dire ok, adesso ci provo, ma non lo so quanti anni di servizio ha. Io quando l'ho conosciuto arrivavo da Cagliari, ma io ero già dal 91 lì, quando abbiamo costruito il depuratore della Saras, capito? Quindi però lui l'ho trovato con loro depuratori che aveva vinto l'appalto per la gestione del depuratore di Canica, era già lì. Poi sotto i silos per buttare i fanghi. Si porta a bancare che la discarica. Già, ma tutti hanno iniziato da giovane, la carta canta. Se hanno iniziato da giovane, c'hai contributi come c'ho io dal 76, allora ne ha in avanzo. Ma se hai iniziato a lavorare e nessuno dà porto di bimbri, è come che non hai lavorato, già lo sai, una situazione, no? No, guardi, lui era sicuramente tutto. Ma c'è per notturni, anche io quando era di notte andavo. Sì, vabbè, da poi per un po' di mafia, vedi, c'è un coso. Scappava in un lungo là, uno dove andava da l'altro impugnare il tipo per cantellino, lui e ne facevano un po' che di casino. No, vabbè, come riparatore dipendente anch'io, è chiaro che era assicurato, sto parlando di quando guidava, di quando non era in depurazione. Io Antonio l'ho conosciuto in depurazione, siamo stati colleghi, facevamo le stesse cose, capito? Lui era conduttore, più faceva anche elettricista all'impianto di carica e io ero cazzassato, capito? Perciò abbiamo lavorato assieme con la stessa azienda, con la stessa ditta, con i depuratori sarda. Lui, il depuratore ha finito il contratto, il comune ha bandito il concorso per la Sinos, e loro sono passati tutti Sinos, invece noi fa parte della zona di Castelsardo, perché un altro distretto siamo passati in Abano, ma questo è successo nel 2005. Anche Augusto conosce? Augusto fuori sì. Poi se te lo chiamo te lo faccio salutare. Andiamo assieme, l'ultima riunione che è stata fatta, non mi ricordo, Augusto è stato il mio responsabile di distretto, è stato rappresentante legale dell'azienda, il responsabile del processo, quindi come perito chimico, e Augusto ha fatto un sacco di cose, una persona che penso che in pochi possano essere come lui. Forse con Augusto io ero in greppa insieme, era un mio amico di greppa, in piazza Castello, ci avevamo la greppa lì sotto il banco di Sardegna. Da ragazzi, ti dico che ne abbiamo vissuto tutti con lui, ballato, siamo andati a ballare insieme, insomma, di tutti di più. Non ce n'è come Augusto, non sono stati tutti con la testa di Augusto in quel posto. Forse faceva la strada. E io ce l'ho anche non sono laureato. Sono laureato Augusto Lecci, capito? Oltre a essere diplomato industriale, sono laureato Lecci, abbiamo fatto una festa a Castelsardo. Era una bravissima persona. È stato sempre una bravissima persona. Colta, educata, con motivazioni che da 100 e lode, guarda, da 100 e lode. Una persona che qualsiasi cosa tu le chiedevi, anche se era fuori orario, anche se lui era fuori sede, sempre tirava le informazioni giuste, corrette, una persona veramente in gamba. Siamo visti da poco. Ed è molto bravo anche come persona. E vabbè, comunque. Conosciamo Tom Benino, molto ma molto amico della moglie quando eravamo ragazzi, e adesso la moglie si è laureata, adesso fa, come si chiama, fa nei corsi di archeologa, e là non mi veniva il nome, amico molto amico, là. Grazie, stavo dicendo, ciao Vanni, comunque mi senti, meno male che ti sento bene. Sì, credevano molto bene Vanni, grazie, usano sempre lo stesso. Non c'è una frutta di picchio negativo, la radio è buona, non la toccare, lascia stare così. Sì, ma come persona, ti ripeto, c'è cioè, da 100 lode, ma prescindere dal lavoro che faceva, eccetera, eccetera, l'hanno un po' desiderato, Proprio oramai è una fase più nuda, oramai è al pascolo bravo, infatti l'ultima volta mi ha detto che stava aspettando anche lui se poteva andare via, capito? Però sì, io la moglie, conosco il figlio, siamo frequentati anche al lavoro, capito? Mi sono frequentato molto da giovane, quindi ci conosciamo benissimo, siamo andati a ballare le salette insieme, cioè, anche se non ti ricordo, eravamo qua, compleanni, siamo divertiti molto quel periodo. E c'era anche Antonio Tirocca, me la stessa greffa, Antonio, Lisa, la moglie, insomma, era tutta la greffa. E vabbè, bei tempi. Sì, siamo stati in ESAF anche assieme. Proprio l'ultimo periodo prima di fallire l'ESAF, di chiudere e nascere con carrozzone di merda. E beh, Vanni. Non ho capito, mi stampa i documenti? Signori, sono le 8, io vi saluto però. Come vado a pappare? Se mi porta adesso a portare il cane, io ti saluto. Ciao Vanni, ci aggiorniamo. Ciao Marco, Natalino, insomma, tutti quelli che sono su 10 in ascolto, dai. Buon fine serata a tutti, chiudo. Ciao ciao. Ciao Claudio, ciao, ci sentiamo, dai, anche io vi saluto, devo portare giù il cane adesso, uia. Non mi sono reso conto che era così tardi. Babbo, dai, vi saluto tutti, ciao Natalino, Vannino, anche a Marco, dai, ci sentiamo, buona serata a tutti, buona continuazione. Altrettanto, ciao Gianni, ciao Claudio, avanti Marco, e ciao Vannino. Ciao, ciao Natalino, non so, boh, Marco, non ho sentito, io sono rientrato, non sento da nessuno, c'era anche Massimiliano, non sapevo c'era neanche lui. Ciao a tutti comunque, dai, e chiudo. A domani, ciao ciao. Riprendi Vanni se vuoi riprendere, dai. No, bene, va Vanni, lasciala così, non la toccare, che è regolata bene. Ottima. Gappa gappa. Quando hai, vabbè, niente, dai, c'è a preparare con l'altro cavretto. Già ti telefono. Ciao. Tutti andati, ci hanno seduti e abbandonati Marco, se ne sono tutti andati. Eh no Gianni, non te ne puoi andare, devi vedere la magia. È andata a portare il cane. Ah vabbè, non c'è problema, lo legge dopo, gli mando il messaggio. Me lo sono fatto Natali quell'affare, ma tu devi vedere la magia, da verde, verde trasparente, no, verde brillante trasparente diventa bianco, diventa questo liquore, questo distillato, una cosa allucinante. E io non ho mai visto, sapevo che esisteva, per averlo letto da qualche parte, mai assaggiato, mai provato. Sì, questo è quello dei poveri, mi costerà 25 euro a bottiglia, ma i ciboni costano, oh, ce n'è anche da 20 a bottiglia, 22, 25, 30, dipende. Quelli dalla Germania li portano, in Italia non li trovi, salvo che non conosci proprio l'importatore, le persone giuste. Aspetta, mi do dei messaggi a Gianni, dai. Ecco qua, caro Natalino, ti ho mandato le fasi più o meno. Vabbè, a te non le mando, magari se sei interessato te le mando, dai, anche per curiosità, per vedere che bestia è questa cosa che si beve. Già lo sapevo che esisteva, queste cose qui le facevano nel Medioevo. Beh, Medioevo non lo so, però soprattutto nel fine 800, la gente, ma lo sai perché credevamo fosse droga? Perché la gente se ne beveva un bicchiere, due bicchieri, tre, quattro, e poi non credo che si pisciavano addosso, sembravano dei matti, perché erano ubriachi. E allora, i ricconi mi ce l'avevano? No, no, no, all'epoca era una bevanda per tutti, anche per poveracci. E più ne bevevano, più ne chiedevano, perché erano alcolizzati, ma non è perché era una droga, capito? Vabbè, loro pensavano che fosse una droga. Quei signoruzzi, cata, per puttana, li imbriagava, non lo diluivano, deve essere. E quindi era pochi e li imbriagava subito. E ecco qua, mandati i messaggi, dai, così la bottiglia non la vista. È un profumo strano, sa di anice, soprattutto perché qua purtroppo mettono l'anice per la troppo dolce. Poi ci vuole l'altro tipo di anice, perché esiste l'anice verde e l'anice stellata. Qua in questo che è dei poveri mettono quella più dolce. Però io ci ho aggiunto una ciurletta di zucchero, mica come prevede il rituale, perché sennò è un po' più amaro, è più amaro. C'è chi ne mette due, c'è chi non ne mette zucchero. Sì, infatti, a me non è arrivato nulla ancora. Ma perché vuoi che te lo mandi? Però volta per volta, passo per passo. No, non le mandare allora, già, io pensavo l'avessi mandato a me, a Gianni l'hai mandato, così. Sì, diciamo il cambiamento del colore. E dai che te lo vuoi subito, dai. Fai così. Bella, eh? La bottiglia è arrivata, verde, cazzo, allora è diventata bianca, e sopra è sempre verde però. Adesso ti arriverà la foto, no? Di com'è alla fine, diventa biancastra, capito? Ed è pronta da bere. Capito? Quando tu metti acqua ghiacciata in quel liquore, la presenza di assenzio la fa diventare piano piano bianca e parte dal basso. Ehi, già le ho viste delle foto, tutte quante, quattro so. E io non ne ho mai assaggiato di questa roba, proprio. A chi non sono amante dei liquori, di qualche volta in pizzeria qualche amaro, non di più. Questo, vabbè, questo è economico, sa di anice, sa soprattutto di anice, quindi può non piacere. Io ho fatto leggero adesso, l'ho fatto un quarto di assenzio, tre quarti di acqua, però puoi fare un terzo di assenzio e due terzi di acqua, cioè lo puoi fare con meno acqua, quindi più forte, capito? Un terzo, due terzi di acqua. Però più forte poi va bene una parte e tre quarti di acqua, quarto di cose e tre quarti di acqua è la cosa mia, perché ricordati non deve essere una cosa che ti brucia la gola, deve essere un drink fresco che ti rinfresca e piacevole. Sì, però quelli deve essere se lo bevevano puro, è per quello che li ubriacava. No, puro no, non è possibile bello puro, a meno che qualche matto, quasi pure qualche scemo sarebbe se puro, però il rituale era quello, c'erano delle piccole fontane, delle ampolle fatte di vetro con l'acqua dentro, no, con l'acqua e il ghiaccio, tu aprivi un rubinettino e piano piano scendeva goccia a goccia l'acqua ghiacciata sulla zolletta, sul cucchiaino con la zolletta, capito? E scendeva sotto piano piano e tu vedevi piano piano questi giri di questa roba bianca e cominciava a apparire, no? Sembrava una cosa surreale. Sì, magari pensavano che la droga per quello, invece no, che li imbriagava e basta, che c'era tanto di via. Dunque, lo sai che l'assenzio buono, quello tipo il bianco o quello il bluette, diventa bianco, non così bianco come il latte diventa bianco come il latte, è una cosa impressionante. Sì, mi sembra infatti che fosse blu. No, blu no, c'è scritto la bleue, ma non è blu, è trasparente. C'è l'assenzio trasparente e l'assenzio verdolino, verde clorofilla e blu. Io adesso non me lo ricordo com'era la situazione, chissà da quanti anni fa l'ho letta queste storie qua. Cazzo, prima leggevo di brutto. Allora sai che hanno chiuso il campo di tiro, hanno inviato cazzo ed è parato il padrone, gruppo di che sta cultura tutti dice. Me l'ha detto quell'amico mio Barrancello che apriva il campo. Qual è successo? Che hanno chiuso il campo di tiro, quello dove andavo io. E perché? Perché l'istruttore che avevo io ha bisticciato col padrone, deve essere per affari di soldi, deve essere, non lo so. Comunque l'hanno chiuso, che io sappia. Bisognerebbe andare in quell'armeria che c'è lì in via Napoli, via Civitavecchia, e informarsi lì. Meno male che non mi sono iscritto io, se no avrebbe fatto anche tu. Che peccato, beh, sicuramente gli ha aumentato l'affitto e quindi hanno fatto il peccato con quello lì, col padrone del terreno. Aspetta che ascolto un messaggio. Ah no, l'ho mandato io questo, dai. Aspetta. Vabbè, non funziona. Aspetta. Sì, sì. Diretto a Gianni di portare il cane, faccio in diretta. E beh Marco, come ti senti adesso? Come? Se ti è passato quel malessere che arrivi. Ah sì, lanciaci. Lanciaci. E ogni tanto può capitare, un po' respiro corto, sai, ma poi passo, insomma. E beh, mi sono rilassato a casa, bello qua col baracchino. Buono, dai, non lo gustavo da un bel questo intruglio, non lo gustavo da un bel po'. Va bene. Oh, c'è roba molto migliore, vuoi mettere con la vodka, caspita il melone, vuoi mettere con... ci sono tante cose molto più buone di questo intruglio, è questione dei gusti. Poi sai cos'è, io non ho la bocca d'assaggiatore, chi lo assaggia sente, sai quelle cose che dicono, note floreali, sapore fruttato, alcune note di legno, qua e là, tutte menate, io non... Io scommetto che se assaggio quello a 70 euro non sento differenze, se non minime. E tu sì, quelli sono palati addestrati, non è così. Quegli assaggiatori lì hanno studiato, hanno fatto varie prove e sono palati sentono veramente quelle cose lì, gli assaggiatori, quei sommelier, quelli lo sentono veramente, io lo stesso non sento nessuna differenza. Quando bevevo quel vino, io tenevo solo quel vino che hanno fatto dall'uva di Maristella, perché lì questo vino non serve a niente, ho detto io, tra me e me, no, altro che non, perché lì a Maristella lo diluiscono, è logico che è leggero, quello che hanno fatto loro era più di 16 gradi, vino bianco mi, sentivi l'alcol scendendo nella gola, lo tenevo, quello lì si usava vino. Aspetta, ma qual è quello giallino dolce dolce? Ehi, però quello che hanno fatto Babbo e il compare, cioè sotto banco gli hanno dato quest'uva, gli hanno dato, ed era proveniente da Maristella lì, a Valghero, terreno sabbioso, e quindi io pensavo, sapevo che intanto quelli di Alghero facevano vino leggero un tubo, lì si lo diluiscono, ci sono gli enologi che lo fanno, perché quello che è uscito a mio padre e a mio compare, e al compare di Babbo voglio dire, quello lì era più di 16 gradi, sentivi l'alcol scendendo, a Rudimiu io, fate il conto, e se no quello che facevano con l'uva di Tremonti, vicino al Sorso, a Camiola le prendevano mille per farsi il vino, però lo sapevano fare e non lo tagliavano giustamente, carte poche lavori, quello non andava bene, manco da tavola non andava bene perché era un liquore, era troppo forte. E così a Florinas, però era rosso, vino rosso che lo mettevi contro il sole, contro luce e non vedevi il sole, denso, roba di 14 gradi, che io non ero abituato, infatti non ne bevevo, sai, fatto nelle cantine dai singoli, capito, chi c'era il vigneto e si faceva l'uva personale, il vino personale, cazzo è roba di vino che ti crepava le gambe, né? Quello sì, perché sono vini furti. Però la densità, la cosa dipende da quanto lo lasciano nel coso, a riposare. Hanno quello lì, lo chiamano inchiostro, perché lo lasciano troppo e giustamente diventa, si macchia il bicchiere, si macchia. Invece quello che faceva Babbo era cristallino il vino, però poche lavori, ti uccideva, 16 10 gradi, se te ne bevi un litro devi andare a 4 anni. Avanti chi chiama? Avanti chi chiama? Cos'è D1B8? Un microfono? Sì, ti ascolto. Oh, leggermente impastato, non fortissimo, ma un po' impastato secondo me. Ma siamo lì, dai. Adesso vediamo se rientra. Ah, non rientra Claudio. Sono andato a mangiare. No, no, è lì per il canale. C'è solo Natalino con me. Beh, forse un tantino meglio. Comunque ti capisco, niente di lì. Niente da dire. Sì, forse un po' sì. Magari non 5, 4 potrei dire, dai, non è proprio cristallina, ma sicuramente quando c'è Claudio te lo regola al meglio quello là. Bellissima così, cosa hai toccato? L'impedenza? Caspita, così è veramente bella. Natali, vero? Ehi. Così lo capisco pure io che arrivo a basso. Sicuramente l'impedenza del microfono. L'impedenza sarà 50 ohm e 50 kilo ohm. Capito? E quindi va bene, non tocca se nulla. Eia. Al microfono normale, così è. Buono. Poi quando entrerà Claudio domani glielo farei sentire, dai. Eia, ciao Capri, dai. Per adesso bene, tieni tu così. Fagliela sentire così domani a Claudio, vedrai che sarà buona. Casomai farà la sintonia fine, cioè te lo regolerà al meglio, dai. Per adesso è ottimo. Migliore di quando si è entrato non era così, adesso è molto migliore. Ciao Gianni, buona cena. Ciao Gianni, buona sera, buon tutto, a domani. Visto, schiarito tutto, non tocca se nulla. Almeno si sente chiaro, era chiaro adesso, lo sentivo bene, ma quando è entrato già arrivava a basso, e in più sembrava fuori frequenza qua. Che cosa? A Capri 2. Ma non l'hai sentito Capri, che ha provato quel microfono che gli hai dato tu, esce bene. Non lo so, non l'ho sentito. Capri, ci sei ancora? Non l'ho sentito bene, ma meglio dell'altro. Non saprei, sì. Cioè, per entrato no, poi dice ha toccato un pulsante o un selettore, secondo me l'impedenza, mi dà tantissimo. Va bene quel microfono. Con quelle radio è l'unico microfono che va bene quello lì. Attento, Peppino di Capri, ma torna alla radio e si è chiudata. No, ha detto che andava a cena. Comunque ci va bene, avete dato un controllo, non l'ho sentito io. Ha cambiato l'impedenza perché come è entrato usciva tutto cusciminiato, variavo di frequenza. Qua arriva a basso e male arrivava. E dopo ha cambiato l'impedenza del microfono, è uscito chiaro il radio. Vabbè, quello per forza. Si è detto l'impedenza giusta. Vabbè, è importante che sia bene. E per me sono già cazzesi. Non era arrivato, la fai per le 9, ma le metti ci ha gesetta fitta di lui a mania. Perché? Ma partita c'è oggi? No. Non volevo mangiare e poi tagliarmi, non sono stato morto, però sono stamattina in giro a destra e a sinistra. Vabbè, gliela fate vedere l'aria la foto. Sì, te l'ho detto, l'ha già visto però non qua a Sassi, a Urbia l'ha visto, a Miglia di Urbia c'era a disposizione, nel reparto di cure. Roba particolare, poi non, cioè il prezzo, secondo me il prezzo non vale la candela, perché ci sono cose altrettanto buone, anzi più buone, di sapore. Vabbè, sai, gli intenditori lì se la tirano, sentono sapori e profumi che io non sento, che loro hanno la lingua allenata, capito? Sono bravi di lingua. No, non capire male. Palato, si dice palato. Hanno il palato sopraffino, gli assaggiatori. Ehi, l'aria ha conosciuto il migliore sommelier che ci sono in Italia, quando era a Miglia di Olbia, anche a Reggio Emilia ne ha conosciuto, hanno fatto un sacco di manifestazioni, di cose, capito? Quindi già sei abbastanza preparata. Ehi, ripeto, bar dove ho trovato l'Oxenta, che era una cagata. Questo in confronto è buono, questo è stato valutato 5,5 nella scala, no, da 1 a 10, 10 non c'era nessuno. Ma l'Oxenta non rientra nelle... è acqua colorata, fa di schifo, così come fa schifo il Mr. Hyde. Mr. Hyde, lo stesso, acqua verde colorata con alcol e ti danno i bicchierini in omaggio. Quelle sono cose di moda che non servono a niente. Questo ancora si salva, ma ce ne sono certi valutati 7 di voto, 7 su 100, che erano proprio, l'hanno definiti vomito di polpo imbottigliato, propaccia. Già ce n'è di stronzate. No, vabbè dai, mi ho sentito chiacchierare, sono rientrato, ora vado a stuzzicare qualcosa nel frattempo. Ci sentiamo ragazzi, volevo sentire il KP2, no, sentire la domanda, dai. Riprendi Natalie, a frappè. Ok, buon proseguo, ciao qua, alle prossime. Ciao Claudio, alle prossime, buonasera, buon. Kappa. Bene. Oh, io a furia di assaggiare Natalie, prima il finto Martini e questo, adesso sono sorridente, sono rilassato. Si rilassa quando sono piccole quantità, certo. Gira, me lo compro, così mi rilasso pure io. No, basta un qualsiasi amaro, un qualsiasi liquore che piace a te. Te l'ho detto, a piccole quantità è sempre ben accetta la roba. Capito, non sta lì. Ok. E quindi oggi, vabbè, siamo andati a McDonald's, te l'avevo raccontato, abbiamo comprato due cosette lì, eccetera. Io i soldi me li sono stretti al portafoglio, me li sono tenuti, ma ho paura che appena li metto su internet faccio danno. C'ho già due antennini in preventivo da prendere, capito? Quindi non mi devono scappare. Quello da 30 centimetri mi piace, mi banda quello. E quanto costa quello? 8 euro e spiccioli, 8 e 70, 8 e 90, non mi ricordo, una cosa del genere. Basta prendere due di quelli, uno lo dai a me, te lo pago, e uno te lo prendi tu. E dipende, Natali, perché come dicevo, quello da 30 è lungo 30, ma dovrebbe in teoria essere più sottile lo stilo, mentre quello da 14 centimetri è appena più grosso. Che ne so, che paragone ti posso fare? Se quello da 30 in teoria è da 1 millimetro, quello da 14 centimetri è 1,5 millimetri di spessore, capito? Ma tu hai detto che lo vuoi corto, assolutamente corto. E diciamo, poi te lo scegli, mi deve arrivare anche da 19 centimetri, te lo scegli tu. Naturalmente se avessi avuto la macchina scura, il cavetto laterale non si sarebbe visto, però ce l'hai bianca e quindi si vede comunque il cavettino che arriva all'antenna, no? Ma cosa me ne fa? Per Bonghenchivi e via. Tanto, è piccolino, mi porto il ricevitore così non mi buoni di mica. Ehi, basta che cancelli quella frequenza che ti ho detto, me. Che tanto ormai non serve più. E infatti bisogna che te lo porti e vediamo un po' come si memorizzano i canali e come si cancellano, capito? E così almeno una volta che siamo sicuri facciamo il lavoretto. E anche qui bau bau bisogna mettere a posto. Natalì, ma non c'era il manuale dello scanner in italiano? Cosa c'è di difficile da capire? Anzi, ti dirò di più. Premendo il tasto F laterale, no? C'era lo stesso tastino, MWMC, vuol dire Memory Write, Memory Cancel, cioè scrivi memoria, cancella memoria. È una vera facilità, comunque casomai lo vediamo insieme, dai. Un giorno che sei libero, ci mettiamo d'accordo, ci pigliamo anche il caffè, ci pigliamo anche la massa caffè e ci facciamo tutte le prove che vuoi, ok? Ehi, non c'è problema. Ma se nomi, prendi il case, io vengo a prenderti al limite, no, con la macchina mia. Portiamo il case e lo smontiamo qui e così proviamo a fare quei giochetti lì. Siamo tutti noghi, lo caffè si rubiglia i minocchi, c'è la macchinetta. Eia, e la mangia a caffè? E quello bisogna che lo compri, bisogna che mi dici cosa vuoi per ammazzare caffè. No, vabbè, non è obbligatorio, Natalino, l'ho detto così. Sì, sì, sì, vengo io, guarda, mi pare, aspetta com'era, tipo ti metti sul canale di memoria incriminato, no? E premi tasto laterale F e poi MVMC. Mi pare che ti appare la scritta Clear Memory, premi Enter, vabbè lo vediamo assieme. E in due, basta che tu mi tieni il manuale a disposizione, che io me lo dovrei ricordare. Ebbene, lo facevo prima e ti do tutte le frequenze dei radioamatori, solo amatoriali. Poi se ci vuoi mettere anche la monitor PMR, io ce l'ho memorizzata, sia le monitor PMR sia quelle LPD. E infatti metto quelle lì, così almeno, e anche in quelli bau bau, e così almeno siamo tranquilli. Ascolta una cosa, ma tu i bau bau, quelli arancioni, li hai memorizzati a mano o a computer? A mano, anche quell'altro blu, a mano. Sì, perché allora con l'UV5R Plus, no? Molti sono convinti di poterlo memorizzare solo col computer, non è vero, perché i canali li puoi memorizzare benissimo anche a mano. Poi dei canali simplex sono facili da memorizzare, basta mettere il canale. Al limite il modo di emissione, largo stretto, spazio di frequenza se lo vuoi mettere, ma non è indispensabile. C'è qualcuno a voce strada, è zitta. Ma sarà il solito palordo. Vabbè. E si fa a mano, io i canali PMR me li sono memorizzati a mano. Ci metto un attimo perché sono solo 8. Capito? Ok, ok, basta, facciamo tutto con calma e gesso e si fa tutto. E infatti. Così te lo puoi portare in macchina, una volta che c'è frequenze amatoriali. Poi, per esempio, la monitor LPD è già banda amatoriale. L'unica così così è 446081 che non sarebbe amatoriale. In caso di controlli è questa. Vabbè che manco le sapranno, meno che non sia un radioamatore. Dice la frequenza monitor PMR che noi usiamo per ascoltarla, basta, allora, eccetera, poi già lo sai, no? Ne parliamo verticale, dai. Che meglio. Meglio. Oh, oh, oh. Che giornata, comunque sono contento di essere entrato al baracchino, dai. È così. Poi quell'antenino che ho misurato con stazionari 2, le ho misurate naturalmente in parcheggio, cioè col muro a fianco. Bisogna provare a piazzare i segni come sono le stazionarie. Perché quando moduli poi che sei strada, no, non sei né attaccato al muro e né in area troppo libera, c'è una via di mezzo, hai capito? Comunque due, visto gli antenini che devono sopportare con 3, 4, anche 5 stazionari e 2 in confronto è un bijou. L'importante è che non fai passaggi falconiani da mezz'ora e non succede niente, ti capì? Infatti, ma poi basta tararla l'antenna, sì, io su quel lo smetto proprio per lì. No, però quegli antennini da 14 dirti non si tarano, sono fissi, rigorosamente fissi, non hanno niente da tarare. Sono fissi, o li rompi oppure no, non si regolano. Solo le antenne di un certo livello, tipo la Energy Bar, quella che uso io sempre, la di Diamond è l'R770, quella in teoria dicono che è regolabile, ma io l'ho già messa al minimo e va bene, c'ha 1.2 in fare. In PMR 1.2 o giù di, dipende poi quanti watt metti, con 4 watt è 1.2, non c'era un problema, se lo sai. Ricordati, sotto il 2 è tutto perfetto. E poi si fanno da 2 in poi passati più corti, dai. E se non mi pido una di quelle che, sa, che ha detto tu adesso e me la metto nella base magnetica che ce l'ho. Tolgo quella grande, una cosa è scandalosa, chissà, e mi metto quella piccolina. Ma infatti una volta che tu hai lo scanner in macchina, problemi non ne hai. Tu puoi mettere anche la antenna da 1,5 metri, perché ricevo, a parte che ricevono meglio, trasmettono meglio, però ricevono meglio proprio anche per lo scanner. Nessuno ti deve dire niente, è libera l'attività, cioè l'ascolto della banda amatoriale, è libera, non dice né che devi usare antenne corte, né piccole, né disconi, né direttive, niente. Tu puoi mettere l'antenna che vuoi per ascoltare la radioamatori. Infatti io uscivo una volta con la SG, come si chiama quella di la Diamond? La mia è una coppia, no? La SG 7009, 1,53 m di antenna. E anche la mia è grande, è per quello che me ne voglio prendere una piccola. Per non stare lì a magari disegni cose, non preso invece. Oh, no, che non ti dicono nulla, se hai il ricevitore cosa ti devono dire? Però è troppo scandalosa. Vabbè, ma io non... cioè, scandalosa anche se usi antenne 1,3 m, vabbè, tu sei in regola, tu sei in regola. Non c'è più l'articolo che devi stare nella propria abitazione. Tu puoi ascoltare dove vuoi, quando vuoi, con l'antenna che vuoi. Nessuno ti deve dire niente, capito? Te l'ho detto, io usavo la, guarda, io di quelle grosse ho la SG 7009 della Uxin, copia della Diamond, è 3x5 ottavi in UHF. In VHF mi pare sia 7 ottavi d'onda o una cosa del genere, ben lunga, sicuramente 7 ottavi spara anche in alto. Poi l'ho la coppia della Diamond CR8009, questa è una marca mai vista, CR8009, che fa VU, poi in teoria doveva fare 29-50 MHz, no? Però non li fa, però la VU la fa bene, staziona le basse, 1,20 m in fluscio, ma è grossa, amico, l'antenna, ricordati, l'antenna più grossa è, non lunga, grossa è più alla larga banda, più sottile lo stilo e più stretta la banda, ricordati anche quello. E quelle cose le sono basilari, più grosso è lo stile e più larga la banda, già lo so, fa più escursione. Veglia, infatti gli stili sottili, per esempio quella da 50 che ho io, no? Bazzetta da 3, lo stile è molto sottile, sarà forse 1 mm, ed è un po' più stretta di banda, infatti va bene in LPD, ma in PMR c'ha già 1.8, 1.9, non mi ricordo, è da molto che non la uso, ne ho due comunque, una è più accordata e l'altra meno accordata, ne ho due, e io uso quella più accordata ovviamente in PMR. Va bene, ok. Prego. Avanti, prego. Qui c'ho anche Natalio. Guarda, Natalio, se ti serve un'antenna per la PMR, conviene prenderti quella della Sirio, la CX440. Oh, è per la macchina. Ah, per la macchina. Pensavo per caso, che era piccolina per non vedersi. Perché quella lì è piccolina piccolina. Ehi, già lo so, ma a me mi serve per la macchina, ce l'ho una lunga per mi banda per la macchina sulla base magnetica, ma è troppo scandalosa, io ne voglio una piccolina. Ehi, allora sì, ehi, ti prendi una di quelle piccoline della Diamond, ti prendi, sono buone quelle lì, no, non le altre che sono imitazioni. Avanti, Marco. Eia, un attimino mi è venuto, mi è salito, va Mamma mia, che schifo, ho avuto acidi di queste porcherie che ho bevuto stasera. Che cattivo sapore, mamma mia. Sai, tipo anice vomitato, mio, mi è venuto un sapore leggero di bocca, che schifo. Sì, Natalino vuole avere un'antenna discreta sulla macchina, ma lui si fa più problemi, io no. Io mi mettevo la CC7009, è grossissima un'antenna, è lunga 1,58, no 1,53 la mia. 1,53, quindi è grossa proprio come le menti, c'ha bobine. D'altronde non ci sono formalità per l'ascolto. No, di tutti i tipi, dalle più sottili alle più grandi. Ovviamente più grande è, più grossa è, più allarga la banda, più ne imbatte, come si dice, cioè spara di più. Invece, ecco, a proposito di questa CX4340, è quella che ho qui, no? Sul terrazzino, parte interna. Volevo andare sul terrazzo di nonno e fare un'installazione semi-temporanea, cioè semi-definitiva. Volevo pigliare, fra, come si chiama, la Diamond BC202. Praticamente è come una X30, però è fatta di alluminio, è una 2x5 ottavi, è tarabile dai 430 a 490. Tu non fai altro che prendere i due stili di alluminio, tagliarli della lunghezza desiderata secondo la scheda, secondo la tabella, e trattare esattamente dove vuoi tu. Io vorrei fare una via di mezzo tra PMR e LPD, se è possibile, se no tendente al PMR. E lo stesso c'ha tre radialini come l'X30, però è di alluminio, capito? Trattare dove vuoi tu. Volevo mettere in sede quasi semi-definitiva sul terrazzo di nonno, non sul mio, perché qua dove abito io è di proprietà di altre persone, però sul terrazzo di nonno lo posso mettere, con un bel palo. Ma non voglio modulare e arrivare dappertutto, vado lì e mi faccio una modulata da lì, capito, fra? Ma tu vuoi modulare dappertutto, quindi che costa, anche poco costa lì, ti arriva già tarato, ti arriva. Quando la piazzi tu esegui tutto quello che c'è di scritto, e la piazzi, la metti la XG200 ed è già tarata e non c'è stazionarie, niente, di qualsiasi modo. Ma la X200? Si tappa ed è una bomba. Quella è lunga però anche, quanto sarà? Che non voglio antenne lunghe però, perché cioè, ci fanno un bel di paranoie su quel terrazzo. Volevo mettere proprio la BC202 perché è lunga 1,15 m, compreso il tubo alla base, 1,15 m, più vabbè il palettino da 2 metri che metterò. Insomma, una cosa corta vorrei, perché già 2x5 ottavi già è buono, lì insomma è una buona posizione, non bella, non perfetta, ma insomma passabile, dai. Esisteva anche la BC200, che ha tre elementi, però sono tre elementi non esterni in alluminio, sono tre elementi interni da tagliare, è come le Diamond, che hanno un tubo di resina, no, di fibra di vetro, e dentro c'è il filamento, proprio il filo di rame, però quella è più complessa da tagliare, non mi piace. A mettere la vetro resina è sempre stata sulle palle, preferisco antenne di alluminio, un po' più alluminio. Ripeto, in casa la CX4340 ce n'è d'avanzo, purtroppo è bassa, se fosse sul tetto non te ne dico niente, sarebbe un bijou sul tetto, però su questo tetto oltre la 5 ottavi non posso mettere altro, se no mi devo azzuffare con quello col proprietario del terrazzo, capito? Ecco, noi stiamo guardando, che arriva sarà 1,50, 1,60 sarà con l'antenna lì, capito? Oh, la 200 credo di più, perché già la X50 è già lunga 1,70, 1,70 credo di più la X200, credo oltre 2 metri. Deia, sì, poi i prezzi sono variabili, meno spendi, meno rende, diciamo. Deia, valuterò. dai, anche se il caso, perché volevamo fare tante cose con Pomponio. Io volevo mettere questa antenna qua, lui voleva mettere il ponte Parrot, il ripetitore Parrot, capito? Che mentre parli registra e poi te lo rimanda, in modo da fare, lui in un punto alto, no, potevamo collegare punti molto lontani, ma poi alla fine, vabbè, non ci aveva soldi e non l'ha ordinato, dai. Se no volevamo fare anche questo. Sì, c'hai ragione tu, c'hai ragione. Sto sbagliando io. Quello che devo fare io. 2,5. Ehi, a 2,50 m, beh, non è troppo lunga, dai. Quelle lunghe sono le 5.000, o cos'era, 510, 7.000, quelle erano veramente lunghe. Non sai perché, perché il lobo di radiazione, più sali, più il lobo di radiazione è l'onfio, tende a schiacciarsi e avere però dei lobi parassiti. Ecco perché io dicevo di non andare oltre l'X50, perché il lobo di radiazione in UHF tende a degenerare, non degenerare, a spezzarsi in vari lobi parassiti, invece è meglio avere un lobo unico. Sì. Infatti io avevo comprato, la volevo togliere quella lì, la volevo, e ho comprato quella che ti ho detto poco fa, la X440, l'ho comprata, infatti ce l'ho dentro la busta, nuova, ce l'ho, l'ho provata solo e basta, perché quella lì io la volevo mettere a fianco della mantova, in alto, e però mi dà problemi alla 27, mi dà, quella, quando la piazzo lì. Allora devo mettere tutta dall'altra parte e ancora non mi ho fatto un palo a parte per mettere quella lì. Anche tu hai da CX440, ma come ti sei trovato come antenna, diciamo, a distanza da Sassari, come ti sei trovato? Ma diciamo che sì, va bene, però non come la 200, non come la 200. Esce più bassa, leggermente più bassa di... è sempre nello stesso palo, parlo sempre dello stesso palo, ma è da considerare anche che è molto più corta. Eia, sì, quella è un'antenna base, ti dirò di più, appunto, essendo corta non è nemmeno una 5/8, è una 3/4 d'onda, no? Vabbè, diciamo che 3/4 dovrebbe essere più di... 5/8, 3/4 sarebbe una 6/8, no? Però se una 3/4 ora che spari in alto, cioè che abbia il lobo di radiazione troppo alto, che spari alto, almeno quella è la particolarità dell'antenna in 3/4 d'onda al solito. Ecco perché dicevo, la BC202 invece è una 2x5/8, e c'è un bel lobo di radiazione bello piatto che va verso l'orizzonte anziché andare verso in alto. Ecco perché l'avrei voluto provare, solo che, sai cos'è? Troppe spese, e quello, il cavo, gli adattatori, poi mi serviva roba proprio per di altro tipo, di altra natura, alla fine non mi bastano i soldi, non mi bastano mai i soldi. Adesso con Natale forse qualcosa entrerà di più, però troppe cose voglio. Io come guardo internet divento matto, mi viene, se mi viene la cosa, come si chiama? La meningite mi viene a vedere tutta quella meraviglia che trovi su internet, in tutti i campi, e tutta roba che a Sassari non trovi, e io ho le mani bucate, quindi devo decidere bene cosa scegliere di cosa da comprare. Io c'ho un paio di manette qua, ti levo la sedia così non compri nulla, ti viene la frenesia a te. Sì, mi viene la febbre da shopping, altro che compulsivo, la febbre da shopping mi viene. No, invece a me quando ci guardo mi piace la cosa, però non riesco a acquistarla, perché a volte ci pensi che è inutile, roba inutile, come quando compri un altro baracchino, per dire è tutto inutile, basta quello che c'hai, perché intanto per come la frequenza va bene, è anche troppo questo che c'è. Eia. Però sai, non potendo mettere proprio l'antenna esterna, qui la vorrei mettere nel quel palazzo più giù, quello di nonno. E allora sarebbe una 5/8 sul tetto, e sarebbe veramente solo che... Ma alla fine ho curato più la macchina, cioè della macchina io posso disporre, io adesso te lo dico e te lo nego qua, no? Posso disporre della macchina BMR, l'LPD, 35 watt più un'antenna, più numerosi tipi di antenne, e quindi ha voglia di fare dappertutto anche della macchina. Ecco. Guarda, quella lì c'ha 4,15 dB di guadagno. La 200? No, mica con quella ne ha di più. La X di 4,40. Ah, 5,40. Può darci, perché la 5,8 guadagna 3 dB, quella è più della 5,8 in realtà, lo sai. Perché se fosse in ottavi la 3 quarti d'onda sarebbe 6 ottavi, facendo l'equivalenza, 6 ottavi, è più di una 5 ottavi in realtà, però ha un lobo di radiazione che spara leggermente più in alto, e ciò non è bello. Il lobo di radiazione dovrebbe sparare sempre in basso, proprio sulla linea dell'orizzonte. E comunque è carina, io mi sono trovato bene, per come in basso rende anche troppo, arrivo alla terroce, arrivo, vabbè, pompone a due, e altre persone già carbonati non fa il testo, perché è troppo alto e troppo vicino. Se fosse più in alto sarebbe un bijou, costa anche meno, perché la Diamond BC 202 costa 49 euro più spedizione, la CX440 costa 39 euro più la spedizione, ed è molto più, diciamo, termine giusto come si chiama, molto più discreta come antenna, perché è corta, da meno nell'occhio, capito? Sì, quello già è vero, già è vero. Tanto per, diciamo, se uno mette un ricevitore che è tutto in ascolto, va bene quasi l'antenna. E poi, come stavi dicendo tu, stare in alto, però sono antenne che devono andare in alto, molto in alto devono andare. Più in alto vanno, meglio funziona, e meglio vanno quelle antenne lì. E non sono come tipo la 27 e altre. Quelli sono tutte diverse. Va bene ragazzi, dai, io vi lascio e ci sentiamo, mi stanno chiamando a cena. Ciao Natalino e buon proseguo di serata, dai, ciao anche a te Marco, buon proseguo. Avanti Natalino, fagli dai. Ok, ciao Fra, buon proseguo, alle prossime. Ehi, Fra, una domanda, magari per qualcuno a cui serva, ma tu la CX440 la stai vendendo? No, negativo, non ho quella lì. Quella è l'intenzione di mettere un altro palo e fare due radio separate. Ah, ok, dai. Ho chiesto per dovere di cronaca, perché magari qualcuno la vuole, sai, di qualcuno in PMR nelle PT. Ok. No, perché da internet molti non sanno comprare, vero Natalino, o non c'hanno la carta e non se ne fanno, o non sanno l'inglese, o non sanno il francese, o non sanno niente, capito? Non sanno ordinare da internet. Natalino, ma io te l'avevo detto, tu, l'altra carta buttacela, taglia, distruggila. Infatti quella del Monte dei Paschi, tu paghi 10 euro, basta, non è conto, non è niente. Però te l'ho detto, tu non lo vuoi fare, e allora... Lei non si preoccupi, ho già risolto, perché se io la distruggevo poi non me la facevano l'altra carta, non hai capito nulla. Oh, è ricciolto, è bello, lei non si preoccupi. Quindi tu puoi comprare già da internet adesso? Sì? Ehi, basta metterci i soldi. Infatti mi devo comprare la scheda madre, il processore per il computer. E se no come faccio? Qua stasera glielo compro, così mi spennano. Sono 10 euro, lo devi andare lì. Ciao. Ciao Fra. Beh, se ci metti i soldi funziona, eh. Ciao Franco. E beh Natalino, tu non mi racconti mai niente, potevi dirmi, mica ho sistemato la questione carta di credito. Già te lo dicevo, magari in verticale, capito? E che poi sono prepagate, non è niente, capito? Non è conto, non è niente. C'è solo due cippi su questa carta, ecco. Bene. Se ti mandano tutti i collegamenti di quelle cose che mi sto adocchiando, mamma mia, non basta uno stipendio, a avanti non bastano due stipendi, lasciamo perdere. Che lei quando vieni qui me li fai vedere i collegamenti. Sono che vedi tutto. Sì, volevo pigliare anche di quelle pistole. Quelle pistole al peperoncino, mi. Ce n'è una proprio a forma di pistola, metti là, la bomboletta e spara dall'ugello un getto balistico. Devi vedere come ti fa. Mamma mia! Sì, sicuro. Abbiamo un attimo, oh, a proposito di pistola, di cosa, ho visto lo spray al peperoncino nel tabacchino del corso, quello di giù. Ehi, ciao Antonè, ma io voglio il TV1000, Tango W1000, è il migliore il TV1000, l'ho già provato, Natalino mio. Ma non ho spruzzato, ho messo una capocchia di spillo sulla mano, di liquido, una capocchia di spillo, l'ho allargato appena appena, no? E la mano sembrava asciutta, me lo poggio sugli occhi, sul naso e sulla bocca, ma dopo pochi secondi comincia ad arrivare il bruciore. Mi ha fatto cieco, non potevo aprire gli occhi, se tentavo di aprire gli occhi mi sembrava strafitto l'occhio da mille aghi, una cosa terrificante, ed era una particella infinitesimale pure spalmata sulla mano, pensa se te lo sputano in faccia, cieco di 20, Poi sai come Natale, io sono un po' deboluccio, di salute non sto molto bene, quindi non mi posso difendere da solo, quindi ho bisogno di qualche incentivo, perciò lo volevo pigliare. Ce ne sono di tutti i tipi, bombolette a mano, pistolette con bomboletta dentro, oppure jet protector, quello che ti spara una fucilata, cazzo, proprio una fucilata in faccia di oleoresi Capsicum, quello forte, non da 2000 Scoville, quello da 4000 Scoville, quello è terrificante. Ah, lo so, stavo dicendo, l'ho visto nel tabacchino, lo spray al peperoncino, 17 euro costa. Eia, ma quale sarà il DIFA? Per caso c'era scritto DIFA? Non lo so, una bomboletta nera era. Sì, perché ce n'è un be. No, guarda, il TV1000 T di Torino, TV1000 è una garanzia. E c'è in due versioni, quello con lo spruzzo normale, con lo spruzzo a cono, e quello col getto balistico, tipo pistola d'acqua, un getto sottile, però che va più lontano. Ci sei Antuguccia, e poi bisogna prenderlo in armeria, quelle cose lì, in modo che sai che è legale, perché sennò è meglio non pigliarmi, io di quello del tabacchino non mi fido, se poi non è legale. Ormai no, quelli che trovo in Italia sono tutti legali, perché bloccano il commercio di quelli non legali. Guarda che c'è un'armeria online, 19 euro costa, ed è da 20 millilitri, spedizione 4 euro, mi pare, o 4,90, è abbastanza buono come prezzo. Io avevo quello da 40, da 50 anche l'ho avuto, ma quelli prima che non avevano chiarito la cosa, no? E non erano tanto, un po' troppo grandi erano, capito? Per legge deve essere massimo da 20 millilitri, però la legge, cioè deve essere una bomboletta da 20 millilitri, non di più come contenuto, però la legge non vieta di portarne le bombolette 2, 3, quante ne vuoi, capito? Infatti, io la volevo comprare per mia moglie, perché qui è un quartiere malfamato, è un casotto. Sì, se vuoi le ordiniamo due, quella che voglio io è bella, casomai le ordiniamo due assieme. TV 1000 Lady, per signore, perché è una forma stretta e allungata, no? È lunga 10 cm, c'è anche in tasca della giacca. Ti assicuro che è efficace, quella volta me li giocci di luci. Ed era una quantità infinitesimale, vabbè, dai. Poi ti farò vedere i modelli. Addirittura hanno fatto il Jet Protector, non a due colpi, a quattro colpi. Ogni colpo ti spara una fucilata a 350 km orari. Ti spara tutti i 20 ml di liquido negli occhi. Ed è da 4000 scoville, il doppio della potenza di quello delle bombolette. Quello è una cosa allucinante, allucinante. Solo che comincia a costare molto, quello da due bombolette costa 2,50, quello da due colpi, quello da quattro, sempre il Jet Protector, costa il pare molto di più, dai, quello è proprio, il prezzo è proibitivo, ma è troppo esagerato, poi ingombra, capito, è troppo grossa la pistola, meglio le bombolette. E infatti. Come si passa quello che stai dicendo tu, lo vedi come si piega e poi lo finisci a calci in faccia e allo stomaco. No, non lo puoi toccare, se già ti sei difeso, diciamo, invalidandolo con quello, non ti puoi accanire, è troppo comodo, allora passi dalla difesa all'offesa. E no, per lasciarlo in terra mezzo morto, così quando vengono lo trovano già in terra. Cazzo, mezzo morto, poveracci. Eia. E beh, Pomponio, dimmi qualcosa. Allora, dimmi tutto, caro, sono qua. Eia. Cosa hai aggiustato il cellulare a Giuseppe? No, ho preso il cellulare nuovo, ho preso l'altro giorno, della LG, e me lo stavo, stavo vedendo i numeri di in rubrica, capito? Perché qua non lo conosco manco bene, figurati tu. E quindi stavo facendo un po' di corsa. Ho messo un paio di numeri, stasera, poi domani adesso metto tutti rimanere, quelli che mi mancano. L'altro ho lasciato a Simona, il mio, il Lumia. Avrei notato che è più leggero, più luminoso, vero? Leggero, leggero, e anche luminoso. È facile anche da usare, è una fesseria. Fanno delle foto che sono una cosa bella, veramente bella. C'è la camera davanti e dietro, quindi può sparare anche le videochiamate. Eia, hai fatto bene, Antonè, perché lo vedevo scuro un po' sto schermo, non era molto pratico, me. È meglio avere Android, Samsung con Android, poi già ti abitui e facile da usare, alla fine sono tutti uguali, me. Quasi tutti uguali. Ok, no, guarda lì, ti faccio vedere qualche prodotto, se ti può interessare ne ordiniamo due, facciamo la spesa doppia. Eia, va bene. Oh, mai, cioè, io l'ho avuto tanti anni, ma tanti anni l'ho avuto, ma non è mai servito, per fortuna. Però io dico che la volta che non ce l'hai, magari ti capita il balordo, e allora sono colpi. Infatti. Eia, eia. A proposito, chiedo a... Antonè, non è che c'è qualche case di computer, qualche... perché mi devo fare il computer nuovo io. Ti serve... non ho capito, cos'è? Easy, cos'è? La scatola dove metti tutti i pezzi del computer. Il case, si chiama case. Il cassone, mi? Sì, lo sa, sì, si lo chiamano. Già ho capito cosa stava intendendo lui. L'altro giorno ce l'avevo buttato qua, vicino a casa, non ho neanche preso, figurati. Se mi capita, Natali, che ce n'è uno vuoto, eccetera, eccetera, che ci manca tutto, te lo faccio sapere. Anzi, uno l'avevo anche regalato, se non l'altro. C'era tutto dentro, la scheda madre, c'era scheda audio, video, tutto, l'avevo regalato, proprio per fare pulizia in garage. Se mi capita già te lo faccio avere, tanto qui mi ne buttano spesso di quella roba di computer, quindi non preoccuparti. Ma in che giorno li buttano? Lì in Piazza dei Segni mi sembra che li buttino, però volevo sapere che giorno era, che io adesso non me lo ricordo. Perché se ne trovo uno, ne tolgo tutto da dentro, mi ordino la roba e me la faccio. faccio? Il martedì. Martedì sono al quadrato, poi mi sembra il mercoledì, se mi ricordo sono agli punti, lì via, via Cambone qua si chiama. No, il giovedì mi sembra che sia, il venerdì agli punti, adesso non me li ricordo i giorni. Vabbè, il martedì, domani è martedì, devo alzarmene presto e salire a Piazza dei Segni, perché se dopo vengono quelli del comune non puoi toccare nulla. Comunque certe cose cominciano a metterle anche lunedì notte. E infatti, si ne bisacchizza, che si ande, perché poi vengono le guardie zoofile e i barrancelli lì. E io allora sai quanto ne ho caricato da lì, quando lavoravo al comune. E beh, perché se vengono barrancelli e zoofile, beh, non si può toccare la roba. Io sapevo che la cernita prima non era permessa, adesso è di nuovo permessa. Ma io so che quando ci sono loro poi non si fanno toccare più nulla. Perché sono dei fantasisti, stanno lì a grattarsi le palle, e beh, cosa siete venuti a fare lì? Anche una volta ce n'era uno della zoofila con i baffi, non faccia il pezzo, di mezza età. Mi veniva voglia di dire, ma lei cosa sarebbe venuto a fare qua? Glielo volevo dire, mi. Poi che rispondesse pure male. E lui, ah beh, io me lo prendo uno, se lo trovo, lo apro e ne tolgo tutto da dentro. Tanto saranno tutta roba vecchia, a me mi interessa solo il case. Poi la scheda madre, il processore, me lo ordino, l'alimentatore ce l'ho da 500 watt del vecchio computer, basta e avanti. Da giudizi gli alimentatori io, in garage, di computer, figurati. A parte anche i cosi lì c'ho il... quello dove ci mette il dischetto, non mi viene il nome adesso, di quelli ne ho altre 7. I floppy dischi! Mamma mia, cosa te ne vai? Già non avevo il lettore CD, non ci vuole nelle nuove configurazioni perché funziona tutta a chiavetta. Io ho Windows 10, non è la chiavetta la chiavetta USB e ti carica tutto da lì, perché l'ho fatto il programma, non parto da solo e ti carica Windows 10, c'ho Windows 7 per mia moglie. Se mi capita io te lo faccio sapere. Comunque dove c'è andare intorno alla mezzanotte, se lo puoi trovare stanotte. Di solito butta la roba a mezzanotte. E vado domani mattina presto prima che arrivino loro. Ne trovo uno, rubiglio e via. Vengo qua, lo apro e lo smonto tutto quanto in modo che sia pronto per quando mi arriva la roba. I pezzi che ci sono prendo e ce li butto. Ricordati che deve essere proprio adeguato alla tua scheda madre, perché di quei due computer uno ha una scheda madre e c'è il case appena più piccolo per la scheda madre più piccola, l'altro c'è appena più grande, quindi anche il case è un po' più grande. E ci sono le configurazioni per le schede, è logico, se è piccola la scheda devi prendere una scheda piccola. Ci sono le mini ATX, le nano ATX e le ATX. Io vorrei prendere una ATX, vediamo un po' se trovo il cassone adatto. Un mini tower ci vuole e quindi puoi mettere tutte e tre le configurazioni. Ah, e ti sei sbuffato per niente. C'è vicino, c'è Adriano che ne ha avuto un sacco di quei corsi. Ci vai, te lo fai dare, io già te lo darà, pensano. E ne l'ho dato anche io Adriano di quella roba lì. Ma boh. Sì, hanno scritto tutta la testa sua adesso Adriano, quindi vabbè. Un po' da lasciarlo perdere, hai capito? Prima era appassionato e eccetera eccetera, adesso poi tutto un tratto è già fatto. Non si sa cosa diavolo abbia preso, e quindi non vuole più sentire né discipline di niente, capito? E quindi non dà più niente a nessuno, e eccetera eccetera, capito? L'altro giorno ho visto la sorella, ho visto, non la stavo neanche riconoscendo, c'aveva le occhiaie, tutta buca male, parlava da sola, non di me che siamo. Così finisce Bomboni, o mio? È sicuro. Vabbè ragazzi, io vi saluto che me ne vado a coricarmi perché sono stanco, non ne ho voglia oggi. Allora, cosa volevo dire? Vabbè buon proseguimento, io me ne vado a letto, che mi guardo un po' di TV. Ciao a tutti e due, da. Ciao Natale, ci sentiamo, buonanotte, buon tutto. Alle prossimine. Ciao Natali, buonanotte, buon tutto. Sì, perché io sono le 9.20, mi. Sono le 9.20, anch'io me ne voglio andare. Caspita, abbiamo sforato come orario, dai. Ciao Natali, ciao, ci sentiamo, dai. Poi già, un giorno ci mettiamo d'accordo e facciamo tutto il conquibus, proviamo schede madre, antenne, tutto. Antonè, novità? Beh, quel portatile, quello nero, novità, si è sbloccato. E è tutto a posto, si sta sbloccando. C'era dopo in pratica il nuovo schiacciare il pulsantino del fianchetto e mi dà in pratica, mi può togliere il Vox, mettere il Vox, poi quando accendi devi premere la portante, mi sembra, e ti cambia, come si chiama, dalla digitale direttamente in analogico. Mi stavo leggendo un po' di istruzioni, vabbè. Adesso comunque già funziona bene, c'è dentro la scatola quella parecchia là. Adesso quando ti arriva quel pezzo che ti ho detto di ordinarmi, ti do subito i soldi così ti attacco l'antenna verticale. Quel pezzo, ma quale? Il pappagocce? Non pappagocce, no, come si chiama? L'attacco maschio. Ah sì. Eia, anzi devo caricare la scheda oggi ma non l'ho caricata. Sono molto indeciso, Antonio, cosa prendere, perché io mi piace quell'antenna lì, diamo un BC202 in installare in sese quasi pizza, sono alterato il nonno, servirebbe quindi il cavo, altatori per mio uso e costume. Però mi servono tante altre cose in altri campi che non hai idea e io non so da dove togliermi soldi, togliermi soldi, proprio non so da dove togliermi i soldi. Adesso ho già un'ottantina di euro, no? A Natale magari me ne entreranno, se va bene, un centinaio e quindi posso decidere meglio. Comunque, prima di tutto l'adattatore ne compro due o tre, perché servono sempre. Io perché ne ho due o tre di quelli piccoli, quelli femmina, a te interessa maschio, ok? E così ce li abbiamo, perché sono piccoli e si perdono, eh? Sì, già lo so. Tu ci hai fatto quel foglio, come ti ho detto io, che ti danno 289 euro. Io già che ho fatto già la domanda stamattina, c'hai tutto questo mese qui per farla. Capito? E così sei tranquillo. Adesso io devo, domani mattina mi devo recare in ufficio perché a me mi hanno messo in galattoria, hanno mandato una riga, invece stanno pagando i soldi, ci sono, stanno pagando gli altri. Adesso domani mattina piazzo casino, nel senso che o mi danno quello che mi devono dare, che non ho avuto, se no vado faccio l'esposto alla Guardia di Finanza. Così almeno i soldi appaiono subito. Se i soldi non c'erano mi avrebbero mandato il messaggio, siccome il messaggio me l'hanno mandato, solo che hanno detto che non c'erano possibilità finanziarie ancora, che le stavano aspettando, invece sono arrivate. Zitti, non ho detto niente, tutti siamo ritirati tranne che io. Adesso vado a parlare con questa segretaria, se non passa la segretaria vado dalla, come si chiama, l'assessore Spanetta dei servizi sociali e poi vediamo come la mettiamo. Ehi. Ascolta, ma visto che io non voglio imbrogliare lo Stato facendo residenza altrove, non mi posso fare il foglio ISE solo per i lavori futuri? Ti puoi fare il foglio ISE tranquillo anche tu, non c'è bisogno di niente, capito? Quello ti serve, devi farlo per forza. Quindi non è, sei tu da solo, capito? Che in pratica scrivi, lo compili, nome e cognome tuo e basta, ci dato la macchina non è tua, non ce la devi neanche mettere, conto corrente in banca non ne hai e quello in pratica non ci va. Lo compili e lo versi. Una volta passano 15 giorni ti danno il foglio ISE, una volta che c'è il foglio ISE puoi fare le domande che ti pare ti piace, anche quella del RIS in pratica, hai capito? E questa qui te l'ha fatta anche da solo, avendo anche la moglie addirittura che lavora, tanto per dire come stanno le cose, diciamo che gente fu passata lì. Capito? Sta lavorando in nero e ha fatto il foglio così, per avere 200 euro. Sì, io vorrei fare cose legali, cioè non mi interessa di quel sussidio, già lo sai che non ne ho bisogno, facendo finta di tagliare la residenza lì, no? Voglio farlo solo per lavori futuri, tipo bidello, quello che è. Ma si compila al momento o te lo porti a casa? Non mi ricordo com'era la storia. No, devi compilarlo al CAF devi andare, al primo CAF che trovi, anche quello viaduco con gli adulti per dire lì, per entrare. Dice, vuole fare il foglio ISE. E loro ti dicono, ci porti questa documentazione qua, eccetera, eccetera, lo fai altro che versare, poi lo compilano quelli del CAF, hai capito? Dopo 15 giorni c'hai, prima ti davo un foglio provvisorio, poi dopo 15 giorni vai e ti metti il foglio ISE, sei a posto, hai capito? Tanto tu c'è il reddito zero, quindi sei tranquillo e puoi fare qualsiasi domanda, capito? Sia al comune, sia dove ti pare. Se ci vuole, senza foglio ISE non puoi lavorare, il discorso è quello. Adesso purtroppo è così. Quello poi lo devi portare anche all'ufficio di collocamento, perché si fa, devi dargli una copia anche a loro. Sì, ma la documentazione che chiedono, per esempio, cosa sarà? Stato di famiglia? Certificato di residenza e cos'altro? Mi sembra che hai stato di famiglia, certificato di residenza, poi se hai i conti correnti, i fogli di giacenza e poi adesso non è che me lo ricordo, vabbè comunque sia. Se hai difficoltà basta che me lo dici, ti accompagno io e andiamo in quello che ci vedo con gli adulti, così te lo spiega, ti spiega tutto. Fino per segno come cosa devi fare e cosa ci vuole, così una volta che ce l'hai sei a posto, Marco, e sei tranquillo. Sì, allora facciamo così, un giorno vado, poi se puoi venire anche tu me l'ancora. E dico, devo fare questo foglio ISE, mi date l'elenco dei documenti da portare, i certificati, perché poi i certificati andranno fatti al comune, no? Tipo lo stato di famiglia, certificato di residenza, poi non lo so, io non ho documenti da alcun tipo fiscali, dichiarazioni resi, zero, non ho niente, io sono nulla tenente. Anzi, una cosa la tengo, la moto è intestata a me, lo scooter è intestato a me, quello sì, perché mamma l'ha voluto intestare a me, non so perché. Però per il resto io ho reddito zero, capito? Non possiedo niente, cioè, gli oggetti di roba, non ho reddito in poche parole. Una volta fatti i certificati, vado lì, li riporto e loro mi fanno il suo foglio, così è, ok. Esatto, sì. Di andare solamente lì al CAF, se per domani sera c'è voglia, se vuoi uscire andiamo qui a via Duca di Raduzzi e così, capito, ti dice cosa devi portare, ti dà un foglio con tutto quello che hai detto, quello ciò che serve, una volta che tu c'hai tutti i documenti pronti, dopodiché vai direttamente lì e riversi. Poi lui scrive e ti fa il coso, perché quel foglio lì va in pratica all'INPS dopo, hai capito? No, lo spediscono all'INPS in automatico. Ok Joe, ok, a me basta essere iscritto questo, avere questo foglio ISE per poter lavorare eventualmente in futuro. Semmai me lo darà tipo bidello, io posso fare cose del genere, roba non da sforzo, ok. Ma ci mettiamo d'accordo, o domani e martedì potremo tripigliare la macchina, venire se vuoi venire, anche tu, parcheggiamo, se te scene troviamo il parcheggio. Chiedo, mi danno la lista dei documenti da fare, ok? Esatto, io domani mattina sono impegnato che devo andare di là, in Via Zara, domani mattina, in Via Zara poi andiamo a serata alla circoscrizione numero 4, per parlare di questa storia qua. Dopodiché la mattina sono libero, quindi andiamo di là e così ti prendi da questo foglio. Dove c'è scritto tutta la documentazione che devi presentare, dopodiché una volta che c'hai il foglio ISE sei a posto, tanto ci passano 15 giorni, una volta che tu hai compilato, che allora hanno compilato il foglio e ci hanno tutta la documentazione, passano 15 giorni, dopodiché c'hai il foglio ISE a casa, te ne fai 4-5 copie perché ti servono sempre, te le chiedono, ogni volta che fai quello che fai un... per dire l'ufficio di collocamento ti tiene il foglio ISE, tiene poi la coppia, dopodiché sei a posto. Se poi in seguito ti vuoi fare anche la la domanda per l'invalidità, ti prepara anche quella, se c'hai magari 46% ti danno 46% e invece anche quella, sempre l'ufficio di collocamento. E fai parte delle categorie protette, tutto lì. Capito? Meglio ti fai la documentazione, almeno sei a posto, Marco, se hai trovato un lavoro, mi auguro che lo trovi, sei tranquillo, almeno non devi stare a avere problemi, capito? Sei già pronto in tutto, ti fai un bel curriculum e così lo consegni, poi consegnalo, visto che ci sono quelli lavori, c'è quegli uffici dove danno lavoro interinale, già lo sai, vedi tutto lì. E magari ti chiamano per fare il lavoro in bidello, adesso 3 mesi, 6 mesi, quello che a volte chiamano, a cosa Giuseppe l'hanno chiamato 2 o 3 volte, l'hanno chiamato, capito? Mi hanno chiesto se sapevo usare il computer, eccetera, eccetera. Lui ma ormai lo sa usare, quindi sei a posto, c'era una marcia in più, sai. Bene, bene. Facciamo sta cosa perché magari è tempo di alzarsi, meglio prima che scadano i termini, poi magari mi ci pulirò il culo scusando il termine, ma meglio farlo, l'importante è me, però devo dichiarare la verità, tutta la verità, non devo mentire a dire ok. Beh, ci mancherebbe, non si può mentire nelle certificazioni, soprattutto nelle autocertificazioni, guai. Guarda, devo dichiarare che ci ho spiegato male anche me, no? Quindi non succede nulla a me, hai capito? Mi dire, altro male ci ospite lì, è capitato anche perché sei grande, è maggiorenne, grazie a Dio, quindi non succede nulla, non cambierebbe la prassi. Mi siedi lì e basta, sei ospite della tua madre, basta che dichiari così, sei tranquillo, se non succede nulla. Giuseppe ha dichiarato così, sei ospite della madre e grazie a Dio è tranquillo. Ospite, io sono a casa di mia madre, niente, abitiamo insieme, ospite, è chiaro che il figlio è ospite della madre sempre, no? Va bene, va bene. Leviamoci questo dente, dai, facciamo questa cosa che è utile. Piuttosto, in via Savoia c'era la sede del comune distaccata, la sede distaccata del comune, no? Però mi pare che non ci sia più. E quindi sono costretto ad andare addirittura in via Catalucchino per andare al comune. Che palle, vedi che se avessi la moto potrei fare molte commissioni in fretta, invece con la macchina è una palla. Guarda, ti conviene fare la documentazione del comune lì a Corte Santa Maria, perché stanno eliminando un bel po' di circoscrizioni adesso, capito? Quindi quella che c'è qui a Carbonazzi, per dire, non c'è più. E invece bella quella che c'è vicino a casa tua, quella che stai dicendo tu dove abitavi tu di fronte, anche quella mi pare non c'è più. Quindi stanno eliminando parecchie. Quindi come in Corte Santa Maria fai prima. C'è poca gente che ti lamento, dice mi serve certificato eccetera eccetera, fate in famiglia a voi, te lo fanno subito e sei tranquillo. Sì sì, ciao, ciao la papà, mi piace a voi, è in basso, se non è in basso, no? Prima di girare in viale Trieste c'era una cosa del comune staccato, era comoda, per me era comodissima, se no mi tocca andare all'impicco o mi piglio i mezzi pubblici, me ne vado in tram, pazienza, io tanto i biglietti ce li ho, a me piace viaggiare in tram, vabbè, in un modo o nell'altro si fa, non ti preoccupare, però se avessi la moto, infatti il progetto che avevamo con mamma, che già 80 euro, poi che ne so, mia zia magari sbilancia 100, sono già 180 euro, cioè in due, sai, con la 14esima potevamo tentare di fare assicurazione, e l'assicurazione che pesa, una volta che faccio l'assicurazione, faccio la revisione, ah, la batteria da cambiare, che è quella, batteria, assicurazione, revisione, poi mi fa due bolli arretrati, sono due bolli arretrati e sono a posto, c'è una moto lanciante e sarebbe veramente bello, vediamo cosa ne esce. Sì, è bello, che c'è l'inverno, no? C'è un freddo, sei in moto, no? Come usare i mezzi pubblici fai prima? Tanto basta, da te passa la 7, quindi c'hai la 7, la 6, e la voglia che ti porta via con Santa Maria, si ferma proprio di fronte, si ferma. Prima di arrivare al semaforo, scendendo da dove c'è la questura. No, ma cosa c'entra l'inverno? Io ho il parabrezza, caro, e in più per le gambe c'è il paragambe, cioè c'è lo scudo che fa da scudo per il freddo. E poi ci andavo sempre io col freddo, ci andavo sempre in moto, a voglia. L'ho tenuta tutto un anno intero, anzi un anno e mezzo mi pare l'ho tenuta funzionante. È inutile che ce l'abbia solo l'estate, perché è come non averne. Io le commissioni le posso fare tutti i giorni così, con la moto se ce l'ho. Poi esistono le sciarpe, esistono i guanti belli grossi, ce li ho già. L'inverno non è un problema, a me rompe solo le palle quando piove e buco. A parte quello devi essere anche spaventato se... Vabbè, la tua già è... non è 50, se avessi avuto la 50, oh yeah, secondo voi il parcheggio non ti rimane ancora molto. E quello è un 125, ma è spompato, ma è meglio, no, che non corra. Vabbè, prima o poi lo dovrò portare a far cambiare la cinghia e i rulli probabilmente, poi quello che c'è da cambiare si cambia, però per adesso a me interessa rimetterla in moto, la moto, avere la batteria costa poco, costa 50 euro spedita. L'assicurazione, la revisione costerà un 50 euro, 60 euro, la revisione, perché la moto è a posto. E te l'ho detto, il grosso è l'assicurazione, sarà 200 e tanti, 240, 250, 230, non lo so quanto. Io già cercherò di tirare il collo. Vi faccio capire che piuttosto che andare da un altro, l'assicuro da voi, che ho già da macchina. Piuttosto che perdere un cliente, fatemi un buon prezzo, no? Io lo spiego poi bene, fatemi un buon prezzo, meglio che non avere un altro mezzo assicurato, meglio assicurarlo da voi, insomma, già li convincerò. Poi io incidenti non ne ho mai, quindi soprattutto in macchina, mai avuto un incidente, da 90 che ho la patente, mai avuto un incidente, né per colpa mia né per colpa degli altri. Non so se mi spiego, invece c'è gente che ha sempre incidenti. Sì, vabbè, comunque toccai sempre le palle, tanto molti fuori. Capito? Cioè, adesso che ci sono imbarati a stazza lì, camminano. Quindi bisogna avere quattro occhi, bisogna avere non solo di uno, perché le macchine, sai, ti passano a destra, ti passano a sinistra, e non gli hai fatto nulla della persona che c'è in moto. E l'altra volta mi è successo a me, che prendevano e gira se le buttavano a terra, hai capito? Perché era una maniera di, come si dice, si fa la guida veloce, se fanno la testa loro no, e sono appena patentati. Ti dai dove ricordi quello che c'è entrato dentro qua, una specie di locale via Polizetta, quindi vedi tu, meglio stare attenti, in moto specialmente, in macchina è una cosa un pochino differente, ma in moto se le passa la destra, se le passa la sinistra, c'è quello che ti rompe le palle, per dire, a me parecchie volte, da quella volta lì ho preso e mollato tutto, vaffanculo, ho detto la moto che cazzo l'ha fatta. Guarda, io le incroci sto molto attento, perché anche se tu hai la precedenza, no? Ma non me la vogliono dare, cioè vedi che ti stanno vicino, io preferisco farli passare che non essere investito, e bisogna stare molto molto attenti, ricordati, la colpa se succede qualcosa è degli altri, perché io posso fare il possibile per evitare, ma se uno proprio mi travolge, lì bisogna solo sperare di uscirne interi, me. Quello sì, purtroppo la moto è, sì, è bella, quello che vuoi, però è sempre un rischio, anche la macchina, però la moto più che altro, se ti riesci a avere, ma vai, è la tua scompatta, per dire, ma è stata una moto di quelle belle che pompano parecchio, bisogna stare ben attenti. Ma sta un coso accelerata, e ti trovi a colla terra, ti trovi, il sosso è quello. Io con cinquantino camminavo piano, era ormai, ho detto pensa, vai ammazzati, sempre così facevo, non l'ho mai fatto io di quelle, cioè guide veloci come si faceva un periodo, che te le passavano loro, destra, sinistra, motorini, scooteroni, auto, vai, fretta c'hai, ammazzati, poi vedi lì al semaforo ancora lì fermi. No, io vado piano. Certe volte rinuncio anche a superare se non si fa giustamente in condizioni di sicurezza, no, non lo faccio. Però ripeto, magari quello che c'è dietro è distratto, come mi è successo con la moto grande. Via Cattolocchino, mi al distributore, salendo, dopo il comune salendo, dopo Corte Santa Maria. Ho rallentato con la moto, no? Era la moto grossa però, per far passare un pedone, e da dietro, boom! Ed arriva questo che si era distratto a guardare dagli specchietti e non ha guardato avanti che c'ero io fermo, boom! Ma l'altro una porta, sono volato, ma non mi sono fatto neanche un graffio. E questo che si era distratto era con la faccia intera, sì scusa, devo ringraziare il cielo che non mi sono fatto niente. Però per dire, per uno distratto te ne brinca, è nato, manco te ne accorgi. Sì, ce ne sono parecchi di quelli, quello che usa il cellulare, in macchina, hai capito? Gli incidenti più che altro nascono così, perché adesso c'è la gira, posso usare viva voce, ci mettono a messaggiare, hai capito? Tanto la macchina va da sola, quindi. Secondo loro va da sola. Vabbè, hanno fatto una macchina che frena automaticamente, lo sai quando c'è un ostacolo davanti. Ma non tutti ce l'hanno, anzi, ancora è una cosa molto nuova. Ok, comunque la moto ce l'ho e preferirei metterla in funzione, se no è stato 1000, quant'era? 1200, 1300, 1200 euro buttati sono a tenerla ferma in garage. È nuova, cazzo, semi nuova diciamo, dai. La carrozzeria non ha nulla, è nuova. Capito? Adesso vediamo cosa c'è, dai, ma quanto ne è. Vediamo se riuscirà a metterla un po' a posto. Così vengo a trovarti anche più spesso, perché a portare la macchina è sempre una rottura di balle, però in moto è più immediato e trovo sempre posto, bene o male. Quello sì, già lo so anch'io. Io quando usavo la moto, la rottura di balle che non fa che già da mezzo ai piedi, quando la cosa, perché mentre vengo a portare non la facevano mettere, allora parcheggiavo fuori. E un giorno qualcuno evidentemente mi seguiva la moto, come sono rientrato da lavorare, fa tutto il tempo a mangiare mezzo panino, scendo giù non ce l'ha più, caricata le tappe di moto carrozzella, capito? Quindi allora qualcuno ha detto non voglio più sapere, anzi mi interessava a spendere 2-3 mila euro per una moto, e poi dovrei stare spaventato. Ma male incidente non l'ho mai avuto, grazie a Dio, almeno quello. Sì, guarda, è morto, io sono caduto da fermo, si può dire. Una volta il tram mi ha stretto, mi ha fatto cadere da fermo. Una volta un vecchio, ero quasi fermo, cioè ho toccato la scarpa col paraurti perché è uscito dallo stop e sono caduto. E l'ultima volta è stato, mi sono fermato a far passare il pedone, questo era distratto, boom, e becca dietro. Ma io ero sempre quasi fermo quando sono caduto, capito? Cioè non ero di chi si che vanno veloci, che fanno gli zig zag tra le macchine, quei giovanotti, quelli giovani dai che fanno quelle cagate, io non ne faccio cagate, io ho 46 anni, in moto bisogna andare tranquilli, come si dice, calma e gesso. Bene Antone, bene, ma sono contento che la radio l'hai ripristinata, forse hai toccato un tasto sbagliato cambiando banda, no? E ti ha fatto quell'effetto lì, boh. Ti ricordi, la potenza è basso, comprimi breve fa, power high, power low. Sì, sì, quello che lo so, già ho letto il manuale di istruzioni, quello del quel foglietto che c'è, quindi già non c'è nessun problema. Forse per cambiare la banda era premere, accendere la panica e premere il pulsante, c'era scritto, e andava di analogico. Quello che lo proviamo in questi giorni, adesso provvisoriamente sto facendo tutta questa documentazione, quindi è un casino. Poi appena c'è un pochettino di calma, lo proviamo. Ricordati, devi essere sul canale 8 in digitale, no? D'aspetto, tu metti il canale 8, c'è una lineetta, no, canale 8, premi il tasto alto e lo tieni premuto, accendi, aspetti 3 secondi, sempre tenendo premuto il tasto, e senti pipì, quel doppio bip ti dice che sei in analogico, sul canale normale, capito? Poi una volta che lo spegni, ricordati che ritorna in digitale, se capi? E io già me lo ricordisco, già me lo ricordisco, che non si debba. Sono conservato dentro la scatola, ce l'ho ancora. Ui ui. Li prendo che c'è luci. Tutto il giorno ho dato mal di stomaco, tutta la sera. Ho mangiato i ravioli scaldati nella microonde, metà erano ghiacciati, metà caldi. Ho bevuto l'acqua. Per carità, congelata era, quella della bottiglia, ho bevuto l'acqua, abbiamo attaccato tutta la sera a casa, che non riuscivo, un dolore forte, aiuto, giù e giù, aveva vado a pronto soccorso. Poi già invece mi ha calmato, sono uscito fuori, ho preso di quella tipo magnesia, ho preso un bicchiere di quella, boh, ho fatto un paio di rotti, sembravo tutti di un porco. Eia, e attenzione con le cose ghiacciate, bevande fredde, mamma mia, possono dare congestioni. Eia, la abbiamo bella moto, chissà che riusciamo, solo che io se mi spendo soldi incazzati, non te ne PMR, in capo, se mi piglio quelle cose che dicevamo a Natalino prima, alla fine non mi rimangono di nada per ripristinare la moto, caspita. Quindi devo fare una scelta oculata. Oculata, oculata. O comprare cavolate o rimettere la moto a posto, che è meglio. Scegliete come mettete la moto a posto, non te vai a comprare dei baracchini, già li vai tutti. Io per fargli funzionare la tua Giuseppe Leoncino, per poter parlare, l'altro l'ho portato al fratello, uno c'era il Corvo. E quindi, e l'altro ce l'ho io. Perché se li tengo fermi, cominciano a dare noia. Ma chi è il Corvo? Quello con gli occhiali, Mario Chigre. Ma il Corvo è il nominativo? Sì, soprannome che abbiamo dato, è pescato quando l'ho conosciuto, perché lui andava per i cassonetti, capito? A controllare. Oh, a cercare roba, e perché tu non lo fai lo stesso? E adesso non lo sto più facendo, no? A parte adesso quella pezza della roba nel cassonetto. Adesso ho cambiato, perché c'è andata di quella roba in garage che gli ho detto bagaglio. Adesso qui c'ho 12 scatoloni pieni di roba che serve questa, tra calvetti, per i piatti stereo e alimentatorini, per telefonini, cose del genere, capito? C'è un bel negozietto di cui tanto se vado a vendere a Porto Vedo non mi danno niente, quindi a un certo punto quando qualcuno serve per dire mi serve un alimentatore, andrò a vedere quanto, per dire 4 vos, 12 vos, pronto, se l'alimentatore, mi servono sempre gli alimentatorini o per il telefonino oppure per il caricabatteria magari che si brucia di qualche portatile, però ce l'ho già pronti, non faccio altro che agganciarli e adesso sono a posto. Infatti, bene Antone, io quasi quasi andrei a vedere un film, guarda oggi c'erano tanti, ma porco Giuda infame, dovevo registrare un film alle 9:15, me ne sono dimenticato, e ormai ho perso la fine, dovevo registrarlo proprio su videocassetta, su DVD, e vabbè pazienza, tanto mi lo danno sempre, non me ne affitti nulla, non vado nemmeno a vederlo. Sì, danno sempre, lo sai, ogni anno danno sempre i stessi film, quindi non è che ti sei preso molto. Tu non li guardi in TV? Sì, io la guardo parecchie volte, quando sono in tablet perché è freddo, mi guardo la TV a fianco, io lo sai, c'è un televisore, si può se lo guardo in camera a letto, io me lo guardo in camera a letto invece il baracchino. Mi dai in tablet lì, mi ti trombo e sono a posto. Sì, caro. Bene. E poi di altre cose, no, del pappagallo avevo detto a Franco che c'era questo progetto, Franco Risorso, c'era questo progetto del pappagallo, ma poi non si era fatto niente ancora, no? Stai soprassedendo per di là, no? Se mi ritiro i soldi del comune, ne escono anche due di pappagalli, non sono di uno, sono 800 euro che mi devono dare. Caspita, ne escono 16 di pappagalli con tutti quei soldi. E appunto per quello. Sono belli soldi. Quello costa 50, quant'era? 50, non mi ricordo, dollari, 56 dollari, 59 dollari, 100 euro e meno. Pappagallo. Sapete, a me piaceva sta antenna, ce l'ho nella testa, non riesco a togliere dalla testa. La Diamond BC202, quella tarabile proprio per... So che se sto sempre a pensare a PMR, queste cagate, non... Molto non le metto più a posto, capito? Vabbè, vediamo, dai, vediamo. Troppe cose ci sono belle e io ho le mani bucate, capito? D'altronde da vendere cosa c'ho? Non c'ho niente da vendere, boh. Intanto quando ho venduto roba me ne sono sempre pentito, sempre. Beh, quello capita sempre. Ioia, sistemati la moto almeno sei più tranquillo, futti di nere i barchi, tanto quello che li stiamo usando non ne vale manco la pena. Ah, però una cosa è certa, il PMR moto me lo metto, quei microantennini da un quarto d'onda, quelli che ho ordinato anche per Natalino, 14 centimetri, è come avere il gomino, capito? In moto proprio, il PMR e l'EPT, capito? Così quando siete fuori faccio chiamata, sta fermo, no? Naturalmente, perché il movimento fa rumore, la moto non senti nulla. Sì, già lo so, sta fermo. E poi ho detto una stronzata, basta portatele in mano, appresso me. Basta portatele, c'ho anche il porta smartphone a tenuta stagna, ci sta anche un PMR ci sta, l'EPD ci sta, a voglia, se non ci sta te lo faccio stare, ecco. Sì, piano piano si fa stare tutto, non ti preoccupare, non la mozza. Io c'avevo il barattino quando fine, quando c'avevo il bazooka, l'antenna dietro, con l'antenna in gomma, quella piccolina, e quando c'era il picciolino, lo chiamavo da... la verità che mi rispondeva a bestemmie. Pesciolino, e già lei il suo pesciolino. Io non abitavo a Santa Maria, cioè, di fronte all'ufficio di collocamento. Adesso è morto lui. Ci sei il fratello, cioè, si chiamava Tenaricia, aveva fatto. Mi sapevo, lo chiamavano Pesciolino, lo chiamavano si cazzava. Non me lo ricordo adesso com'era. Nominativo suo. Parlava lui, la sorella. Davanti all'ufficio di collocamento presente della Telosce. Esatto, sì. Ehi, ce ne sono stati un bel fico di amici di Pauletto, Automan, Danilo Sanna, ricordi, grazie a poco ti cazzava. 24, 33, com'era il numero? Andavo a vedere, proprio dava i numeri in tutti i sensi, Pauletto, sia i numeri di telefono, sia i numeri a campo. 24, 33, 64 era. Comunque Falcone sta... è tutti i giorni di Alzanite, quindi secondo me lui vive di nuovo dove viveva prima, lo dico io, dove viveva la madre vive lui, evidentemente è a Sassari, capito? E tutti i giorni lì, quindi se va lì, l'ha visto cosa Stefano l'altro giorno di Altani, quindi vuol dire che è legge di Gesù Giuseppe Maria torna evidentemente ad abitare. Io quando l'ho visto, quando lo vedo glielo dico, adesso mi dico di mi dammi 25 euro e ti compro il portatile in PMR così parli, così se lo porta a passeggio, se lo porta e me lo parla. Eia, ah, quel PMR tipo, gli do, io ne ho due di Midland 50-50, ne do uno e ce lo usa, così parla con noi almeno, poveretto, che io dico che da quando non ha più baracchino questo ragazzo non avrà più saputo cosa fare, infatti mi sembra un po' suonato, un po' imbambolato, capito, poi è invecchiato, insomma, capelli più grigi, e anche ingrassato pure, mi pare. E gli ha parlato Stefano, dice che è ingrassato, quindi secondo me lui abita nuovo dove abitava prima, cioè, non ci vuole molto a scoprirlo, uno di questi giorni ci facciamo un giretto lì, magari o al bingo, tanto lui già ci va vicino, o al bingo di solito, o se no al talento a farsi un giro, o lì dove c'è il coso. Va, il supermercato l'MD mi pare che c'è, quindi già lo troviamo, già non ti preoccupare, tanto da per forza fare la spesa tutti i giorni, o di mattina o di sera, dai, già lo becchiamo. Eia, ah? Eia, e tu sei lì giù, certo magari quella frequenza, non lo so fin dove arriva, però il portatile già lo sa che c'ha 2-3 watt. Qualcosina magari riesce a farla, no? Soprattutto se si avvicina alla finestra. Bene o male, da te o da me dovrebbe rifare. Va bene. Basta che non glielo rubino per strada, già lo sai, lui no. Qua lì glielo togli di mano, lui non reagisce, no? Lo userà a casa, lo userà, se lo userà, non lo so. Allora vediamo, se uno di questi giorni mi capita di trovarlo. Glielo dico, se dice di sì, procuriamo uno di quei portatili, se la piglia in culo, a me lo parla un pochettino da dentro casa, non c'è bisogno, ma qui mette l'antenna esterna, basta l'antenna in gomma e voglia ce ne va anche per i pulci. Eiga, ma se dovesse essere necessario li mettiamo anche l'antenna esterna, quella piccola che ho io, la CX440. Se ci picchia cosa, cazzo. Lo facciamo entrare in LPD così ci sfascia il culo Claudio. Ecco, lo stavo facendo anch'io. No, casomai può parlare da quella zona, può parlare con loro, che sono un po' latte dolce, così, monte. riuscirebbe a parlare abbastanza bene con loro, ed è un canale tranquillo quello, vedi? In PMR con loro. Esatto, se non gli metti la frequenza dell'internazionale, ha voglia, che parla. O cominciamo come faceva qualcuno prima, eh? Sottovoce, a mettergli la portante. Facciamo schiattare, così questa volta diventano la trombosi. Se mai c'è perché Claudio a noi due. Via via. E immagini che entra nel link nazionale, sei peloso. E tu non sei parlato, sto parlando della Sassa, della Sardegna. Ci manca solo quello, link nazionale. Così entrano tutti, perché adesso non va a entrare nessuno all'internazionale, io dico che se entra lui entrano tutti. Ah, l'attrazione, come si dice, l'attrazione. Oi oi, bene. Bene, bene, Antonio, io quasi quasi chiuderei, da. Non portare, metto a posto queste due cose che avevo messo in mezzo, ok? E via, ok, non c'è problema. Anda bene, bene, anda. Vabbè, ci sentiamo domani, da. Ci sentiamo le prossime. Mi raccomando, ci vediamo domani sera, così almeno andiamo tipo dal CAF e ti tiri quel burro, così comincia a farti subito la documentazione. Eia, hai detto via Duca degli Abruzzi? Solo che è quello che mi spaventa, dove cazzo la parcheggio la macchina? Già lo sai che non c'è un posto nemmeno a pagarlo. C'è, non ti preoccupare. Già ce n'è a parcheggio io. E dietro i pompieri in pratica rimane me. Questo CAF. Ah, di dietro i pompieri, non davanti in via Duca degli Abruzzi. Beh, allora sì, già ne troviamo. Siete pompieri proprio, e neanche a 30 metri da casa di Antonio, il tassista, che adesso non abita più lì, c'era rimasta la mantova lì, e anche la tantenna è rimasta lì sopra quel tetto, già c'è un giorno già, figurati. Poi lì ci lavora cosa? Ci lavora il vicino, c'è il bar, come si chiama? Giuda. Giuda, ma Giuda quello del baracchino, che entrava come Giuda. E via. Che c'è per un nome da darci, Giuda, il traditore massimo proprio. E c'è il bar attaccato alla CAF lui, metti più giù c'è il bar lui, è suo, prima ne arriva, applica tutti i giorni, tutto questo è esaurito, mattina e sera, adesso visto già la domenica sta chiudendo, evidentemente gli è venuto qualche esaurimento, senz'altro, perché stare tutti i giorni aperto mattina e sera sempre da solo, non è che venga tanto bene, no, stare tipo in galera. Ma il bar è frequentato oppure è un mortorio? No, già è frequentato. Ehi, a me basta che non mi presenti come CB. Quando vedi non è CB, non dire questo è un altro cono, non dire nulla. Io sono Mister X, l'uomo del mistero. Non mi va di essere presentato a gente di cui non sapevo nulla. Non so che persona erano, boh. Sì, vabbè, mica te lo presentare. Andiamo lì. Una volta che finito il coso ci beviamo una birra, quello che è, e poi andiamo via subito. Va bene. A domani, dai. Ci sentiamo dopo pranzo. Ma apre mattina o sera? Il capo tutte e due? Apre anche la sera, apre. Adesso la riveria, perché di solito prima c'è anche lo stesso caffè, cioè mi sembra che il padre è in consolidità, cioè non consolidità, è consolvico, e il figlio invece è lì in via Duca degli Abruzzi. Comunque l'altro giorno sono andato di sera, era aperto con Giuseppe, quindi sei stato troveremo aperto, già ci facciamo un giretto lì, e poi se non aperto quello già ce ne sono caffè in giro, ma senza evento per prendere un muro non succede nulla. Vabbè, eia, sera, ma sera inteso come pomeriggio, certo non sera alle 6, no? O sì? Alle 4:30. Beh sì, così è perfetto. Così è perfetto, non troppo tardi, non troppo presto, eccetera. Almeno a chiedere la lista dei documenti. Poi voglio vedere se hanno ricostruito, se hanno rimesso la, la circoscrizione del comune, voglio vedere se l'hanno ripristinata, anche se mi non credo proprio, tutti bastardi, ragazzi, era così comodo, non c'era nessuno mai, forse per quello l'hanno chiuso. Cosa, il comune c'ha pochi soldi, quindi magari li ha eliminate parecchie, quella che c'è qui vicino l'ha eliminata, c'è scritto a Porta Santa Maria, poi ce n'era una, mi pare, non mi ricordo, c'è il foglietto comunque appeso, basta quando saliamo, quando stiamo scendendo ci fermiamo di fronte a quella che c'è qui vicino, e c'è scritto in che via è, quindi così lo sai subito, se quella dove eri tu esiste ancora, c'è scritto nella via, basta andare lì, se no Porta Santa Maria va a far cuffia. Ehi, te l'ho detto, poi se non voglio uscire in macchina mi piglio il tram, capito? Tanto passano tutti lì. Mi studio, ho tutte le linee sul computer, ti dice esattamente dove passa, in che via, e se non ci sono gli orari alla base, cioè a che ora parte dal capolinea, e quindi io mi regolo, no? Ok, va bene, Antone. No, domani allora riesco ti avverto e andiamo e ritiriamo il modulo, la lista dei documenti da fare, ok? Ok, e va bene, ci sentiamo domani, buonanotte allora, ciao. Ehi, buonanotte, dai, che siamo, caspita, dalle 5 e con quante che siamo al baracchino, mamma mia, che siamo entrati presto noi, cioè prestissimo, non presto, ma tipo alle 5:30. Ok, figurati. Via. Va bene, a domani. A domani, ciao, buonanotte. Oh, sì, ancora.